I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Facciamo anche una pernacchia a pizzi. Ecco qua, una bella pernacchia per sicurezza. Mi dissocio, Lo stoppiamo, quindi. Anche io mi dissocio. Non è vero, Pizzi TVB, dai, sto scherzando. Stoppiamo qua. Ok. Fatto. Ciao, Pizzi. Ciao. Italian Podcast Network presenta Fatality. Videoludica, il lato B dell'industria del videogioco. E bentornati a questo nuovo episodio di Dietrologia Videoludica, successivamente o quasi vicino al recente episodio di Archeologia Videoludica, che tanto sta creando agitazione nel mondo degli ascoltatori dei nostri podcast, anche giustamente, però insomma purtroppo sono cose che succedono. Ci ridiamo sopra, ma in realtà la cosa è molto seria. Allora, do immediatamente i riferimenti di Dietrologia Videoludica, che sono appunto dietrologiavideoludica.it. Intanto vedete il template, il tema del sito che cambia, perché non riusciamo a trovare una soluzione a un problema che c'è nel sito e che a voi non ve ne frega un cazzo, ma ve lo diciamo uguale. Dietrologia Videoludica lo trovate anche come pagina su Facebook e su Google Plus, ma soprattutto Dietrologia Vide, che è il nostro Twitter. dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra posta elettronica. Con me a presentare questa puntata che sta per iniziare, bella ciccia, c'è Marco Gualdi. Ciao, sono perfettamente in grado di fare qualsiasi cosa stiamo facendo, perché non ne ho coscienza. Sono veramente chiuso. Pensa che adesso noi entreremo nel vivo di questa puntata, che non so quale sia, che è la puntata che ci sei anche tu fra un po'. Sì, ma io non, però tu avrò, vai, non ne avrò coscienza. Io vai di là, ti spruzzi una cosa nel naso e sei perfettamente sano. Una cosa nel naso, sentite, questa cosa che dovrò spruzzare nel naso, perché non è cocaina come potete pensare. Assolutamente è una puntata dedicata a, cioè, si intitola Musica e Pixel. Si parlerà di Pixel. Di Pixel, okay. Soprattutto. E che fanno musica? Che fanno musica? Fanno i famosi. Che musica fa Pixel? Pip, Pixel fa. Così. Potrebbe anche essere. Vabbè, dette queste fantastiche cazzate, a questo punto entriamo nell'osservatorio. Ci vediamo fra poco. E certo. Osservatorio dietro ludico. E dunque entriamo nell'osservatorio, che a volte lo chiamo videoludico, a volte lo chiamo dietroludico, però insomma quello dietroludico dovrebbe essere quello giusto. L'ho già presentato prima, insomma era fino a 3 secondi fa con me a introdurre il tutto quanto. Marco Gualdi, rieccomi. Lo rie perché mi piace mettere la musichetta sotto, che fa insomma. Io voglio la musica più figa, un sacco, la musica, no, che è quella, rumore. Beh, quella fa rumore, quella ha messo nell'assets il nostro Carlo Burigana. No, quella tutta pam pam, insomma, è un po' tamara. Poi l'effetto, non so se vabbè, dai, andiamo avanti. Comunque c'è questa sera per parlare con noi di questo tema importantissimo, non manca quasi mai, Giuseppe Assaso. Buon salve a tutti, e se vi chiamate Ennio Morricone toccatevi il Zebedei. E per questo non saprete mai il perché. No, ricordiamo che noi piangiamo la scomparsa di questo grande compositore. No. Beretta, Marco, tu piangiamo la scomparsa di questo grande compositore. Poi non è così, però, no, non è, però vedrai che insomma, ok. E torna dopo un bel po' di tempo, perché ci sta un po' trascurando questo periodo, ma non solo, non ci fa neanche i 50 sfumature, Stefano Biggio. No, non è che adesso ci fare 150, sta ancora a giocare alla storia ancestrale, secondo me. Io sì, sono. Che sarebbe? Conosci la storia ancestrale? Ascolta il Retrocast, lo scoprirà. Ah no, è troppo commerciale. troppo poco esce anche l'album, sì, di figurine, tra l'altro, come fa Vigili. Esatto, sei diventato troppo mainstream, sì, per me, sì, ormai, non so. Sei troppo poco indie. Cosa ci vuoi fare, modestamente? Va bene, e invece ci torna a trovare ogni tanto, insomma, abbiamo deciso che da ospite lo facciamo diventare un po' parte di Dietrologia Videoludica pure lui, come facciamo con tutti. Ma lui era nato come ascoltatore, no. Comunque lui fa parte di un altro podcast che poi ovviamente lo citiamo, e c'è Cristiano Caliendo. E allora buonasera a tutti. A lui, sì, a me no, c'è un motivo, scusami, no, io ci ascoltavi prima, Cristiano. Io vi ascoltavo, adesso però ascolto solo un rumore infernale. Lui sta, no, Simone, io prima di fare la trasmissione, prima ancora anni, mesi fa, sì, ci ascoltavo. Ascoltavo. Simone, io ti volevo dire, Simone, che sono onorato che mi hai introdotto con questo modo apocalittico, questo suono che sai che non ce la faccio più, lo sento ovunque. Dappertutto, non poteva mancare su Dietrologia Videoludica. Sì, però mi piace, grazie quindi a te, alla regia, a chi per loro. Insomma, e chi per loro, certo. Ricordate, questa è l'ultima puntata di Dietrologia Videoludica. Ma come? Come? Lo diciamo perché Caliendo ha partecipato alla puntata di Yabu. Yabu subito dopo ha annunciato la chiusura ufficiale della trasmissione. È bellissimo questa cosa, quindi insomma mettetevi l'anima in pace e entriamo a parlare. Quella è l'opzione A, l'opzione B, no. No, vabbè, quindi non c'è l'opzione B. Allora, abbiamo fatto una puntata sui tie-in e out, quindi abbiamo parlato insomma del rapporto tra videogiochi e cinema, e facciamo una puntata che non è direttamente collegata, anche se in parte sì, perché parliamo della musica e dei videogiochi, che è un rapporto bello antico, insomma, cioè diciamo forse collegato, non dico alla nascita dei videogiochi, ma insomma è un rapporto che si è consolidato quasi subito e anche in maniera indissolubile. Stefano, vogliamo, che ne so, se tu pensi alla musica e ai videogiochi come rapporto antico, che ti viene in mente, per esempio? Come cosa intendi per rapporto antico, scusa? Antico nel senso dalle origini, insomma, cosa ti viene in mente come colonne sonore, come suoni, come cose che ti ricollegano alla tua infanzia, ai videogiochi antichi? Diciamo che il suono del gioco sia diegetico, diciamo, quindi all'interno del videogioco. Ma non comincia pure tu, però, per favore. Devi parlare come bambini di 6 anni. Cioè, non puoi. Io ho andato a giocare a gioco e suono fatto gioco. Il suono era bello. E suono piaciuto a me. Ecco, vabbè, meglio. Vabbè, comunque, vabbè. Diciamo che in linea di massima i suoni e le musiche sono stati indissolubilmente collegati tra di loro. Questo senza ombra di dubbio, sia ai tempi in cui i suoni erano emessi dallo stesso computer, quindi Space Invaders o i vari cabinati nei quali i suoni poi si mischiavano al casino, alla gente che urlava, agli altri suoni dei giochi. Era difficile anche, ad esempio, in sala giochi stare dietro alla colonna sonora di un determinato gioco, solitamente. Beh, era difficile. Quasi anche impossibile. Perché non so in che bar voi eravate, però nella maggior parte dei bar che ho frequentato al sud, molti gestori spegnevano proprio l'audio dei cassoni, quindi perché interrompevano la gente che bestemmiava. Esatto, quindi. No, ma guardando la partita di pallone. Ma io proprio pensa della Terronia. Ah, ok. Comunque, a volte gli davo comunque anche ragione, perché ricordiamolo, molti degli arcade e anche dei giochi per computer delle origini erano fondamentalmente effetti sonori, no? Non è, cioè, era già un pochettino più raro agli inizi avere una vera e propria colonna sonora di sottofondo, erano più, diciamo, l'effetto del missile che partiva, dell'esplosione, del nemico che ti ammazzava, piuttosto che una vera e propria musica, no? Sì, però appunto pensate alle serie giochi, quelle con 50 cabinati, per dire, 100 esatto, cabinati, dove esatto, sentivi solo rumore. Le famose sale giochi in Sardegna, quelle da 50 cabinati, no? Quelle no, beh, ce n'erano grosse, ne avevamo almeno quando ci andavo io, cioè quando c'erano più che altro. Ce n'erano due estremamente grandi al mare, diciamo, che tipo l'extra ball, queste qua. E avevano, sì, avevano, non solo, non avevano solo i cabinati, e davvero ne avranno avuti una cinquantina se non di più, venivano aggiornati e così via, oltre ai giochi classici, eccetera, eccetera. Poi ce n'erano anche altre sparse per la città con 10-15 cabinati, una cosa così. Erano piuttosto diffuse. Il problema è che ovviamente sono sparite assieme a tutto il resto per lasciare spazio a quelle finte sale giochi che si trovano adesso nei centri commerciali, diciamo. Cioè, non so se avete, se anche da voi ci sono. Io ho notato che sia qui che anche a Cagliari, tra l'altro, c'è magari il cinema che ha un'area con tutti i cabinati. Sì. Tendenzialmente nuovi, tendenzialmente, insomma. Ah, sì, è vero, è vero. Pure da UGC, esatto, esatto, esattamente. Più o meno questo sono i giochi mangia soldi. Quelli sono molto mangia soldi e sono mischiati poi a, anche lì con quei giochi che ti danno non le targhette, come si chiamano, i buoni, diciamo, che poi puoi riscattare in cambio di altri regali orribili, tendenzialmente tipo droghe o cose. Poi a Roma ce n'erano diverse, ovviamente. Beh, immagino. Ce n'erano un paio enormi, cioè proprio due o tre proprio enormi di quelle proprio alla West American Way, e poi c'era un periodo in cui si collegavano le sale giochi ai bowling, e quindi c'era questa mistura tra musica dance che tu sentivi nelle che si sentiva nella parte aria cabinati, che ovviamente per quasi contrapposizione non è che li abbassavano, cioè li mettevano proprio a cannone, quindi se tu andavi a giocare al gioco ti stordiva. Ma se tante volte, ricordando un po' nel passato, che ne so, sentiamo un odore ci riporta a un certo tipo di ricordo, magari Caliendo, se tu pensi a dei beep o un insieme di beep, a quale videogioco lo ricolleghi immediatamente? Cioè il gioco che ti ha lasciato maggiormente, che ne so, la musichetta impressa nel cervello? Ma per me è stato un rapporto antico, innanzitutto volevo dire questo. No, che ti è piaciuto molto. Sì, molto piaciuto. No, io prima ancora delle sale giochi, in realtà l'ho sentito roba dal Commodore 64 a casa direttamente, quindi mi ricordo una roba che fece mio padre, programmatore in erba, una specie di tombola, come facevi tombola, usciva, sentiva la musica di Tu scendi dalle stelle. Tu scendi dalle stelle. Che c'entra niente, però. Assolutamente. Avevo trovato quello script e ce l'ha buttato dentro. Esattamente, no. E poi ricordo una musica di come si chiama? Di un gioco che si chiamava Donald Duck Playground, che era una roba scritta da Allow, che fra l'altro è anche l'autore di Leisure Suit Larry. No? Che c'era questa musica insistente che andava in loop continuamente, che insomma, quella un po' mi è rimasta impressa. Comunque, roba sul Commodore 64. Donald Duck, mi ricordo che c'era un gioco che tu dovevi dare il resto, quello che dovevi costruire, diciamo, esatto, un parco giochi, una cosa, sì, del, esatto, genere, acquistando le varie strutture, sì, no? Sì, lavorando, no, ti facevi dare i soldi, poi imparavi a dare il resto, sì. Era educativo, diciamo. Sì, perché mi ricordo che c'era in particolare il minigioco col nastro trasportatore, che tipo le angurie le dovevi fare cadere, bravo. E se si andavano a spaccare, c'era tipo Paperino che cominciava a fare esattamente, no? Quello, sì. Sì, camminando per strada c'era questa musica in loop che fra l'altro scritta stesso da Allow, mi risulta. Tu, Marco, invece qual è il primo ricordo che c'hai, così, videogioco, suoni? Pong. C'è Jungle Hunt, c'è Donkey Kong, c'è tanti di bei giochini, insomma. Nel senso proprio di quella che tu te lo ricordi proprio, dici, però cazzo, c'è, cioè, sta cosa mi è rimasta veramente impressa. A me sai che sembra, non è la musica, però a me Space Invaders, cioè per me era musica. Anche il mio, era uno dei primi giochi che ho avuto in casa. E lì mi ricordo, e anche io mi ricordo, non aveva musica, però i suoni di Space Invader erano pesanti, anche perché sentivi solo quello, e in casa non essendo una sala giochi. È ipnotico. Invece forse un po' più recente, sempre anni 80, Warhawk. Warhawk qual era? Che è un fantascienza, aereo, sparare, uccidere. Shoot 'em up. Astronavi. Shoot 'em up. Ah, bravo, si dice così. O shoot 'em up. Che era quindi tale che si chiamava, che si chiama Rob Hubbard, mi dice che niente. Di Scientology. No, non credo che sia Rob Hubbard. È il super figo che fa le musiche super fighe, esatto, per un sacco di giochi super fighi. Dei giochi super fighi. Vabbè, comunque, dicevamo. Io ne ricordo due, però, se posso. Aspetta, che passiamo al secondo punto. A questo punto, che che è forse probabilmente anche più attinente, visto che sarà un po' pure per scaldarci, anche se continuo a sostenere insieme a Biggio che Space Invaders c'ha la colonna sonora più bella e più senza, trans senza avere la colonna sonora, tra l'altro. Esatto, fantastico. Più trans, insomma, io non lo direi l'altra voce. No, no, trance. E, vabbè, background musicali che hanno fatto la storia a questo punto. Quali sono i background musicali che hanno fatto la storia? Non quelli che ci piacciono di più, quelli che ci sono rimasti, nel senso che comunque li ricolleghiamo al vecchio mondo dei videogiochi. Partiamo da Caliendo stavolta. Fino che anno? Vabbè, quelli proprio antichi, siamo all'era sempre 8-bit, dai. Prima che c'è stata la transizione tra background musicale e colonna sonora, che sono due cose poi fondamentalmente diverse, nel senso per come la concepiamo noi la colonna sonora. Ma dammi 2 minuti per pensarci, pizzera. Vabbè, allora dai, allora partiamo da Stefano. Esatto, c'era infatti, oramai quando parla lui è sempre. Sì, io parto così, come un razziatore, si sente subito questo suono. Sono un po' razziatore, sì. Oraziatore. Vai Stefano. Io ci metto, secondo me le prime che hanno davvero fatto scuola, diciamo, sono state quelle per Commodore 64 e Amiga, cioè quelle che nelle quali forse la gente ha iniziato a ricordarsela, a registrarsene nelle cassette, ad ascoltarsene anche fuori, anche perché più o meno contemporaneamente c'era anche l'avvento dei Walkman, più o meno di Walkman e dispositivi vari per ascoltare la musica, i costi erano più accessibili e così via, quindi secondo me più o meno da quel periodo lì c'è stato un boom nell'interesse delle colonne sonore, grazie sia al fatto che gli strumenti per realizzare la musica elettronica erano un po' più accessibili a tutti, perché una cosa sono i Kraftwerk degli anni 70 che collegavano, i Moog che si rompevano il cazzo, eccetera eccetera. Una cosa invece è avere, tu compravi un Commodore 64, avevi dei tool, delle cose che ti permettevano di creare della musica. E un 64 chip, c'aveva il Music Maker. E aveva anche un chip musicale abbastanza cazzuto per il tempo, quindi ti permetteva di creare davvero della musica. E infatti appunto il Rob Hubbard, che è il mio preferito, è uno di quelli che ha fatto delle colonne sonore che mi ricordo tuttora, ecco. In mente, non lo so, Karateka aveva fatto lui, mi pare, ma anche, cavolo, vabbè, adesso non mi viene in mente il nome, comunque ne ha fatto tante e sono una più bella dell'altra, tra l'altro. Da lì in poi mi sembra che sia stato un interesse maggiore dal punto di per il pubblico anche per la colonna sonora, tanto che quando poi sono uscite le varie riviste di videogiochi eccetera eccetera, c'è un interesse, e tuttora c'è un interesse anche nel valorizzare anche quello che è il comparto sonoro, cioè se il gioco è piatto e non ha una colonna sonora, non ha nessun suono ambientale eccetera eccetera, un po' perde forse di qualità in qualche maniera. Beh, penso tu mi direi qualsiasi opera di intrattenimento, no? Nel senso, dici, se vedi un film una comica di Ben Hill e non c'è sta la musichetta sotto, diciamo che perde il suo 50%. Oppure che non so, in Alien ci mettiamo veramente la napoletana. Tu Marco invece? Beh, io li ho detti prima, insomma, comunque sono quelli che dei videogiochi più conosciuti. Perché tu vai avanti. Kong, beh certo, ma io anni. Quindi Jungle, ma c'è anche Pac-Man cazzo, però cioè. Ma Pac-Man non aveva quello, non sapeva solo un mondo. Pac-Man c'aveva un jingle. No, c'aveva un jingle prima dell'avvio e poi durante le scene di intermezzo. Vero. Ha ragione, vero, assolutamente sì. Mo ve li dico io, guardate. Allora, c'era un gioco per VIC-20 che io ho già citato in una puntata in cui, se volete, vi racconto la storia di quando ho scartato il VIC-20. Quella dove si è fuggito, è quella la storia. Esatto. Bravo, ma quella di ascoltatevi 70.080, è fuggito due volte, è fuggito mentre si sentiva sullo sfondo. Comunque c'è la cartuccia, cioè questa cartuccia, il gioco si chiamava Rat Race, me lo ricordo perché l'ho cercato per anni su YouTube, non riuscivo a trovarlo, poi qualcuno su Orgames Italia mi ha detto guarda che il gioco era questo qui, che era praticamente sto gioco di questi sorcetti che correvano, potevano fare le puzzette per allentare il gatto che li inseguiva, E c'è sta musica. Che era un gioco acidissimo, che era tutto viola. Ho capito, Alicat. Era Alicat, non si chiamava così. No, Alicat era quello col gatto. No, quello era un altro gioco per PC. Mannaggia, quello era mitico, ragazzi. Quello era il gatto che doveva andare a stufolarsi nelle case a mangiarsi i canarini. Invece questo era il sorcio che anche da copiarsi. Ma non era, non aveva la musica. Era una musica. E poi c'era Pitfall. Pitfall è stato proprio il gioco che... Adesso se la risento me la canterei fino a domattina, quindi non la vado a sentire perché sennò è un macello. Caliendo. Allora, io ho pensato, Caliendo. Sì, ci ho pensato a lungo. Senti che ti facciamo sentire. Vabbè, però se lo fate a voce sovrapponete. La prossima volta. No, ma non c'era, lo abbiamo fatto sul suono. Ascoltalo meglio. Ah, l'avete doppiato, quindi ok. Esatto. No, allora io sì, ce l'ho. Ce n'ho più di uno, dai. Allora, Ear Kung Fu, se si pronuncia così. Datemi una mano. Kung Fu. No, sì, per noi va benissimo. È un gioco sempre per Commodore 64. Che vabbè, ragazzi, questa musica un po'. No, Ear Kung Fu era su NES. O c'era? Beh, sì, no, c'era anche per Commodore 64. Anche non so quale era fra i due. Sì, credo proprio di sì. No, non mi ricordo se ce l'avevo. Non so se era nativo per. Lascialo parlare, però. Sì, scusate. No, mi è venuto il flash. Possiamo magari controllare se era nativo per Commodore oppure per NES. Però credo fosse più Commodore. C'erano su entrambi comunque. Sì, c'era su entrambi. E niente, che c'era questa musica, ovviamente da stile arti marziale, che partiva sia nelle sigle sia diciamo negli stage vari. Lì, dato che sono morto, credo, più in quel gioco che in tutta la mia vita videoludica, penso che mi è rimasta un po' in testa. Poi una cosa, non so se si può dire, perché non so se c'entra, ma beh, i vari Summer Games, Winter Games con le musiche delle nazioni. Ah, sì, ma, sì. Esatto, c'era quella. Mi hanno insegnato le musiche delle nazioni, che però in compenso adesso mi sono completamente scordato, quindi sono regredito. Io ci avrei un aneddoto raccontato questa cosa, era un po' dai, racconta. Però cioè, mi ricordo che con i suoni delle bandiere dei Summer Games sì. Io ci ho fatto una sorta di medley. Praticamente noi in campagna da me eravamo un sacco di ragazzini quando eravamo piccolo e facevamo una sorta di giochi olimpici, di giochi senza frontiere tra virgolette. E io ho fatto le squadre, Italia, Inghilterra, Francia, roba del genere. E ho messo il Commodore 64 di fuori, collegato alle casse. E praticamente quando uno vinceva, io facevo sentire l'inno del... Era figo, era come... Ma scusa, eravate tutti italiani e facevate sentire l'inno dell'Italia e basta. No, perché ognuno si faceva la squadra, due o tre, e si faceva la Francia, l'Italia. Diciamo tanto tempo libero quei tempi, questo bisogno. Era d'estate quando, cioè, non so se tu sei mai stato in vacanza o se sei sempre stato un bambino triste, però insomma. Sono sempre stato diciamo in casa a sentire Summer Games, questo mi rendeva molto triste. Vabbè, e io che vivo dove la gente va in vacanza, come mi devo porre di fronte alle persone che vanno in vacanza? Infatti tu te ne sei andato per andare in vacanza. Io me ne sono andato perché così posso tornare in Sardegna e andare in vacanza. È tutto collegato, cosa credi? Anche tu a costo zero, tra l'altro, perché ho vitto alloggio. Che tristezza. io ne avrei due, così vai tu. Allora, per Commodore 64 sicuramente ci avrete giocato come conversione, anche se non era proprio la migliore, Ghost and Goblins. Vabbè. Dove, aspetta, ma la cosa bella è che la versione per Commodore 64 è una colonna sonora completamente diversa da quella arcade. Colonna sonora realizzata non da un giapponese ma da un se non sbaglio americano, tale Mark Cox, che in realtà era comunque riusciva, diciamo, col SID a dare un effetto comunque sempre spettrale di atmosfera al gioco, visto che comunque il gioco aveva, diciamo, un platform dalle tinte horror. E poi altra musica che per me ha sempre spaccato, però nella sua accezione per Commodore Amiga, questa volta la colonna sonora di Turrican, ad opera ovviamente del grande Chris Usbeck. L'avete ascoltato, penso, sicuramente. Ma quello di, allora, quello del di Ghost and Goblins, sì, mi ricordo perfettamente perché io ci giocavo su 64, sì, quindi. E poi il Sid, come diceva, sì, Stefano prima, c'aveva veramente grandi doti, perché se con la giusta tecnica c'era pure sto vibrato un po' inquietante, sì, insomma. Il? Era super più. Super più. Ma Caliendo va finito. Mettiamoci il suono così a casaccio. Ma Caliendo va finito? No, vabbè, sì, avrei anche. Forse ne posso tirare fuori un altro a gratis, diciamo. Ma sì, dai. Sì, no, e vabbè, c'era. Aspetta, scusa un attimo. Ok. Non è una colonna sonora poi, però è talmente un suono talmente famoso che era l'introduzione di Impossible Mission, quella famosa, no, che sì, sembrava quasi una cantilena, no? Come lo diceva. Stay Wild, Stay Forever, no? Non avete presente, no? Quindi sì, sì, anche se diciamo punto di Mission Impossible. Sì, no, no, no, Impossible Mission, Mission. Impossible Mission, scusate. No, io comunque io però ricordo, cioè, appunto la parte sintetizzata vocale piuttosto che sì, sì, la musichetta, no, in sé. Comunque grande inquietudine, per quanto c'è da dire che in quel gioco comunque la musica aveva anche una componente fondamentale di gameplay, perché se vi ricordate, per accedere alla sala finale dove c'era lo scienziato dovevate comporre un, diciamo, una serie di sample audio. C'era, sì, c'era una sorta di puzzle che andava un più, esatto. Adesso non ricordo se c'erano pure i sample audio, però sì, c'erano, sì. O nel primo o nel secondo, in uno dei due, sì, c'era proprio la, il sample, sì, sì, audio, sì, che andavi sempre a scovare esaminando i vari oggetti nelle stanze. Certo. Sì, ma quello poi più che altro, appunto, era più questa introduzione sintetizzata che dava, non è musicale, d'accordo, però era talmente avanti lì che... Beh sì, comunque è più o meno collegato, che poi tra l'altro in tante di quelle cassette, insomma, di cui abbiamo parlato milioni di volte, c'era uno dei programmini, c'erano delle riviste che vendevano ovviamente queste cassette dove c'è dentro c'erano dei software di utilità o varie, di vario genere, che non erano sempre i semplici giochi. E mi ricordo, su uno di questi c'era il sintetizzatore vocale. Beh ragazzi, quante parolacce ha detto il mio Commodore 64, voi neanche ve lo potete immaginare. Che poi per fargliele dire bene dovevi trovare anche la giusta, perché il sintetizzatore vocale era comunque impostato sull'inglese, era, esatto, quello che aveva anche la faccia, diciamo. Cioè era tipo una faccia dietro una schermata blu, una roba così, una cosa stilizzata ovviamente, non una, c'era la schermata blu sicuro, perché certo. Allora, io ricordo vago delle elementari, ce l'aveva il fratello di un mio compagno di classe, dal quale andai tutto contento per giocare appunto ai videogiochi, e passammo tutta la sera a fare i compiti perché lui non era in grado di inventarsi una storia, me lo ricordo ancora. Io li avevo finiti in mezz'ora perché dovevo inventarti una cagata, lui ci ha messo tutta la sera, non ho giocato un cazzo di videogioco. Tutto sta che prima di andare via il fratello mise questo software di cui tu stai parlando per far parlare il Commodore, ma purtroppo non avevamo modo di fargli dire oscenità, purtroppo. No, no, io veramente ho sentito di cose brutte dal computer mio. Ah, va bene. Anche senza scriverci niente. A volte anche senza scriverlo. Snocciolo un'altra grande colonna sonora che, insomma, anche, diciamo, contribuito a far fare il suo ingresso, diciamo, delle colonne sonore per i giochi che cominciavano ad avere più, diciamo, un approccio più cinematografico. Sempre comunque del periodo Commodore Amiga. Le abbiamo anche parlato in altre trasmissioni. Defender of the Crown. Ah, beh, la colonna sonora di apertura, no? Sì, sì, assolutamente. No, vabbè, sembrava Fratelli d'Italia all'inizio. Sì, in realtà gli assomiglia molto l'intro di Defender of the Crown. Secondo me hanno anche un po' copiato. Quella è epico, veramente. Quello. Va bene, avete già parlato. Quindi, okay. Anche se di Defender of the Ground, su Amiga, proprio dell'intro, la cosa più bella era vedere la sfumatura della scritta che è animata, no? Che si muoveva sulla scritta facendola tipo sfavillare. Insomma, quella era una cosa particolare. Va bene, allora, insomma, è abbastanza superfluo dire, non ci voleva questa puntata per capire che il rapporto tra musica e videogiochi ci hanno segnato nel profondo. No, audio e video. I videogiochi è stato comunque un rapporto antico, molto importante. molto importante ed è stato un rapporto antico. Più che altro sarei dire anche che è un rapporto che c'è stato da sempre, ma che comunque nel tempo si è evoluto. Cioè, esatto. da semplice, anzi, da ruolo marginale, oserei dire, perché appunto abbiamo detto anche prima il discorso degli inizi con i sample audio solo per gli effetti sonori, poi in realtà si è diventato un accompagnamento e negli ultimi 15 anni è diventata in realtà proprio una parte proprio predominante che ha a sua volta creato proprio dei generi di videoludici. Cioè, tanto per darvi un'idea, tutti i vari, che so, Guitar Hero, Rock Band, tutti i vari Rhythm Game, tutte le varie. Oddio, questo era un aspetto che in effetti io perlomeno non avevo considerato. Tutti i vari esperimenti sinestetici tipo Rez, per darvi un'idea. Ne avete sentito parlare, spero. No, assolutamente no. Aia. Mitsuguchi sicuramente si stava rivoltando nella tomba. Oh. A chi l'hai detto? No, vai, parlane. Se così almeno. Allora, spero che intanto di Mitsuguchi e di Rez, almeno gli altri compagni di questo podcast. Ma se ci dici come ci scrivi, come si scrive, andiamo subito a cercarlo. Rez, R-R-Z. Io non so come. Non gioco ai videogiochi, mi dispiace. No, io non so neanche di cosa stiamo parlando. Allora, era quella specie di clone, per dirlo, di come gioco diciamo ricordava un po' Space Harrier, no? Dove tu comandavi questo omino stilizzato in wireframe che si andava via via evolvendo, ma soprattutto il gameplay era molto musicale, cioè a seconda di come progredivi nel gioco cambiava proprio la musica. All'inizio era un po' come una semplice marea, diciamo calma, cioè le onde molto calme che poi si andavano via via increspando man mano che tu andavi a sparare a tutti i vari nemici. E la cosa bella è che proprio questo è un aspetto molto appunto sinestetico. Avete presente la sinestesia di Kandinsky, del pittore russo, no? Quindi praticamente, cioè, nel senso, tu parli di videogiochi dove non solo il background musicale è importante, ma diventa parte del gameplay. In effetti non avevo considerato questo filone, perché non era probabilmente questa la direzione dove volevo andare, però in effetti hai fatto bene a fare questa precisazione, perché rende ancora più palese quanto è importante poi in realtà questo rapporto tra videogiochi e musica. Dicevi, Caliendo? No, stavo per chiedere a Peppe di scrivere il titolo, però l'ha scritto, per cui il resto. No, perché mi sembra che mi sembra che qualcosa mi sto ricordando. Se volete passare una cosa ancora più recente di Rez, che comunque Rez è sempre periodo PlayStation 2, non siamo proprio molto lontani, anche PS3 Child of Eden, non so se ve lo ricordate pure, che era uscito pure PS3 Child of Eden, era uscito 360, esatto. Tramite il Kinect si giocava anche, era sì, su si Kinect, giocava anche tramite il Kinect, oltre che col mi ricordo che l'avevo giocato col Kinect, esatto, dicendo, anche quello si ricordi, aveva pure molti aspetti diciamo sinestetici con la musica, no? Se ti ma io sono abbastanza convinto che Marco Gualdi adesso ci fa una recensione di Child of Eden. Ma non è come un quiz che parte quando sbaglio qualcosa. No, se vi ricordate anche, c'era una. Sì. Ah, scusa, no, Peppe, finisci poi. Vai. No, vai. No, non c'entra niente con Child of Eden e con Rez, quindi. Ho finito comunque con questi due. Ok. E allora, se vi ricordate, c'era anche una versione per mobile, soprattutto, adesso non so se ci fosse anche per PC, di Space Invaders Extreme DX Plus, Road to World Cup 98, eccetera, eccetera, che... permetteva. Ti è rimasto impresso sto Road to World Cup, FIFA anche, mi è venuto in mente. Sì, no, vabbè, io sono fermo a FIFA 98, quindi... E io so quale sta dicendo, vediamo se... Esatto, allora è quello che ti permetteva... Infinity Gin. Esatto, giusto? È quello che ti permetteva di prenderti... Però tu, scusa, tu dici, vedi se lo indovino e poi lo dici tu, scusa. Vedi se lo indovino io, infatti se lo indovino io, giusto. Vai. No, e comunque ti permetteva di prendere i tuoi MP3 di qualunque tipo, anche di voce, e trasformarli in un livello di Space Invaders, ovvero la costruzione di livello era quella classica, standard, però ti permetteva di uccidere, diciamo, i marzianetti, come li chiamavamo, come li chiamavano i miei genitori a suo tempo, e ti permetteva di uccidere i marzianetti a tempo con quello che stavi ascoltando, praticamente, che era un esperimento interessante. Sì. Diciamo, la lontana un po', abbastanza, come dire, studiata, diciamo, per quello. Non sempre era precisa come cose. Avevo provato con appunto tracce musicali e tracce vocali, ovviamente con le tracce musicali risulta molto meglio tendenzialmente. Se ci metti le tracce truzze, pompate, tunz è perfetto. Più vai nel ricercato, più perde di tempo, di timing. Ci dovevi buttare sotto un Nino D'Angelo e secondo me lì facevi un bel danno. No, che poi c'era un gioco recentemente, pure Marco aveva parlato di un gioco che comunque che era un roguelike tra l'altro, che pure quello era molto legato alla musica che ci mettevi, e perché ovviamente il gioco era cadenzato con il ritmo della musica e quindi doveva essere abbastanza impegnativo. Ma poi ci sono anche proprio giochi effettivamente che non solo fanno appunto fanno del ritmo anche proprio dell'orecchio, quindi del giocatore, non più, diciamo, cioè si sposta l'attenzione e la bravura del giocatore non solo nella parte appunto coordinativa della gestualità, della manualità col joypad, ma proprio anche con l'orecchio allenato, perché deve sapere andare a ritmo, no, col gioco. E questo qua, per esempio, ne fanno molto uso i vari rhythm in game, che sono tanto per citarne due, Elite Beat Agents, oppure Osu Tatakae per DS, sì. Oppure per esempio Space Channel 5, non so se ve lo ricordate, per Dreamcast e PlayStation 2, il secondo. Sì, sì. Anche 360 è uscito poi nella rivista, nella collection. Dove là, diciamo, se non andavi molto lontano, no, dovevi stare a tempo. Esatto, non tenevi il ritmo, esatto. Tieni il tempo, cioè, con le gambe proprio, perfettamente proprio adatti alla mio senso della musica. Per te, no, o per gli 883 la scelta. Se vogliamo comunque tornare con la scaletta, e quindi penso che il punto era quello che stavi chiedendo, quando è che abbiamo avuto il passaggio, no? Effettivo, il punto di svolta. Sì, no, appunto, introduciamo un attimo, perché in realtà, ecco, come diciamo, a parte questa digressione che ci ha permesso Peppe, perché in effetti, ribadisco, non l'avevo considerata, e quindi è giusto, insomma, averla comunque inserita. C'è un momento in cui chiaramente la musica dei videogiochi passa da semplice background, tappetino musicale, ad accompagnamento vero e proprio dell'avventura. Allora, prima di tutto individuiamo, se ci riusciamo, quando questo aspetto della musica diventa poi effettivamente colonna sonora, un po' più similmente a come succede nel cinema. Vai, Giuseppe. Io ne ho uno, cioè, che non è, diciamo, un gioco, è proprio un momento di passaggio tecnologico, ossia il passaggio dalla musica che veniva generata da una subroutine del programma, quindi è associata quindi a un processore, a una scheda audio, a un chip dedicato, al CD-ROM. Cioè il CD-ROM ci ha permesso di incidere per la prima volta delle musiche che sono state arrangiate in precedenza, a monte, no? Magari composte proprio da uno studio. Sì, anche audio. Se secondo me il passaggio è precedente. Non è più da per dire cassetta. La scheda audio, Pizzi. Io avrei detto più l'audiocassetta. No, a parte l'audiocassetta, però allora, se noi prendiamo quello che dice Giuseppe, io lo prendo per buono, perché in effetti è così. Però per esempio, se un gioco io cito spesso perché ho adorato e giocato in tutte le salse, ad esempio Loom, aveva l'accompagnamento parlato e musicato tutto interamente su CD-ROM, che in realtà nella versione originale era sull'audiocassetta. Ma io direi che già dalle avventure Lucas, soprattutto con la nascita degli Muse, la musica nell'avventura comincia a diventare veramente un cammino narrativo insieme alla narrazione stessa. Non so poi, Giuseppe, se sì, anche quello, sì, in pratica da, di fatto la Emuse esiste da quando? Da Monkey Island, perché mi pare da due, esatto, non mi sembra che tipo Zack McCracken o anche Indy il Last Crusade no, ma nemmeno il primo Monkey Island, il primo Monkey Island aveva il 2 lo inaugura ufficialmente, sì, tant'è che hanno fatto vedere milioni di volte la scena di quando tu nella palude vai verso la cosa lì, come si chiama, la barbona, la strega voodoo, la signora voodoo, esatto, e lì più tu ti incammini più la musica si fa lugubre, esatto, e ci sono anche proprio dei momenti scriptati in cui per esempio quando lui passa sotto un arco e volano dei corvacci o roba del genere, anche lì sono dei momenti scriptati dove la musica comincia ad avere proprio un elemento importante nella narrazione e presumo anche in tantissimi giochi horror poi successivamente. Chiaramente poi la tecnologia delle Sound Blaster più evolute e il multimedia kit, il CD-ROM e roba del genere sicuramente hanno poi amplificato, insomma, questo tipo di discorso. Caliendo, volevi dire qualcosa? Sì, secondo me è stato un passaggio soprattutto dettato dalla tecnologia, cioè nel senso, come hai detto tu pure, dal a parte il CD, a parte tutto, cioè secondo me è stata la scheda audio a poi a effetti, almeno per quanto riguarda il PC, a cambiare le cose, perché prima prima c'era il PC speaker cosiddetto, no? Sì. E poi invece con la Sound Blaster, diciamo, che cominciava poi 16 bit pro e quella roba là a cambiare. Tant'è che la transizione secondo me fu proprio devastante. Mi ricordo roba come Eternam, un gioco forse si ricorda in 3, che aveva questa colonna sonora potentissima per i tempi, no? Perché usciva da queste casse meravigliose, no? E mi esaltavo da morire, perché poi il resto del gioco era una schifezza. Però quello era un'introduzione bella. Poi vabbè, come hai detto tu, probabilmente a livello sempre su PC e sempre per quanto riguarda il percorso mio, sicuramente l'iMuse è stato importante. Quello che con Monkey Island 2 forse sì, è stato avviato il proprio. Che poi tra l'altro, e qui passiamo poi a Stefano, torniamo un attimo a Giuseppe e poi andiamo a Marco, come diceva Cristiano, l'utilizzo delle nuove schede, io per esempio avevo la Wii 32, qual era la peculiarità di questa scheda che costava uno strafottio di soldi? Era che ovviamente utilizzava il MIDI, e quindi il MIDI era entrato a tutto diritto in maniera dinamica all'interno dei videogiochi, ma se tu avevi schede come la Wii 32 non sentivi i suonacci de merda, perché c'aveva la sua banca suoni. Quindi praticamente era un po' come una Korg, come una Roland praticamente, era come averci una tastiera, un sintetizzatore che aveva la sua banca di suoni e che utilizzava nel kit MIDI, e quindi praticamente sentivi il piano, che era pianoforte, cioè nel senso tutto dipendeva dalla qualità della scheda. Se io ho visto la differenza giocare a Monkey Island 2 con la vecchia scheda e con la nuova scheda, ed era passata veramente dal giorno alla notte proprio dal punto di vista audio. Differenze che non vedremo mai più. Differenze che non vedremo, mai più. Tu ci scherzi, tu ci scherzi. In realtà poi c'era anche quella. No, scusa, una cosa. Prego. Ricordi pure quando cominciai a sentirsi anche le voci tipo Dune 2, Prince 2, sai, che c'erano quelle introduzioni parlate che coincidono più o meno con l'introduzione l'introduzione commerciale delle schede audio, no? Più o meno. Quindi un periodo se di... voi considerate che l'Amiga, che era un computer che stava tecnologicamente avanti pure dal punto di vista audio rispetto anche alle schede audio del PC, che poi ci hanno messo anni magari per recuperare, la grande differenza stava nella RAM, perché per esempio io mi ricordo che con l'espansione 512 che portava praticamente la RAM a un mega, che ne so, sul FA18 Interceptor potevi sentire dei suoni che prima non sentivi, potevi sentire la famosa colonna sonora nell'introduzione della schermata, esatto, e poi no, c'erano anche dei suoni aggiuntivi tipo la frenata, i freni aerodinamici, roba del genere, e su Operation Stealth ancora mi ricordo l'avventura della Delphin Software c'era il parlato sintetizzato, lo ricordiamo, non abbiamo parlato di sta cosa. Sì. Ma fu una cosa che, cioè, mo noi oggi ci fa ridere una cosa del genere, no? sì ma come, però, no, hai voglia, cioè dieci anni avanti rispetto proprio concettualmente, il fatto di avere il parlato all'interno di un gioco dieci anni avanti prima di tutti gli altri. Chiaro che era un escamotage, no? Però tutto sommato a modo suo funzionava, sì, assolutamente. io mi ricordo le schede quando su DOS che ti erano richieste le schede per avere dei suoni super incredibili, che erano le Hercules, le Tandy. Cioè, che avevano cose. Madonna! Sì, cioè erano cose che diceva con queste qui sentirò il suono del tempo che scorre, roba simile. No, aspetta, che l'Hercules era la scheda video. Questa però, voce? No, ma facevo anche schede audio. Mi ricordo. C'era Tandy, l'Adlib, la Roland. Io ho sempre ricordato per PC, anzi per la mia breve avventura su PC, sempre sola la mitica Sound Blaster. Quello è esatto, io non ho mai posseduto, cioè dopo le schede integrate schifose sono passato direttamente al PC con la Sound Blaster e quindi ero contento, diciamo, anche perché era davvero un passaggio incredibile, avevi questi jack che potevi collegare delle casse comodamente. Ma la Creative Labs esiste ancora, giusto per? Giusto così. Penso che fa tutto che facciano, esatto, di quelli alto profilo. Sì, sì, Creative Labs c'è tuttora, okay. Creative Technology. Sì. Il punto è che ormai ovviamente... I peggio kit ci ho avuto da Creative Labs, c'era pure il surround. Sì, ma c'erano delle cose incredibili, al tempo poi erano, tra virgolette, obbligatorie, perché comunque avevano un prezzo accettabile se non puntavi a quelle di fascia alta. Ecco, quindi potevi permettertela avere comunque un suono qualitativamente buono, diciamo, cioè che era sicuramente oltre il MIDI, decisamente oltre il MIDI, senza spenderci un occhio della testa. Ma poi ti ricordi, Stefano, che quando dovevi settare per un gioco la scheda audio, dovevi stare lì a selezionare la scheda precisa, che se mettevi gravi su ultrasound non si sentiva non sentivi un cazzo. No, pure dovevi mettere la porta giusta 220 la configurazione prima che si arrivasse all'epoca della configurazione automatica, ragazzi, erano dolori, veramente. No, erano dolori. Gli anni bui del PC. Cioè, se pensi che adesso qualunque PC che compri, in qualunque maniera, tu vai, attacchi le casse al jack, è finito. Gente come noi vent'anni fa se lo sognava una cosa. Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Comunque. Belle citazioni culturali. Sì, vai, tutta gallana. Ragazzi, vai. Aspettate, lo metto. Aspettate. Anche se devo dire che era meglio il terzo posto a Sanremo di Ivano Spagna, devo dire, ve lo ricordo, terzo posto proprio, quindi grande Stefano. Cristiano, tu devi smetterla di... Caliendo c'ha una cultura trash nazional popolare, infinita. Ecco cosa dovevo dirgli che non mi ricordo, è tutto l'episodio che pensavo, devo insultare Cristiano Caliendo su qualcosa. Ma non adesso so me l'ha ricordato, da Sanremo, devi smetterla. Io leggevo solo post di Sanremo, di Cristiano, durante il periodo di Sanremo. Allora è meglio, scusa, vuol dire che finalmente li leggevi, Stefano? Sì, ok, ma li leggo comunque, ma meglio quando parli di videogiochi. Io di Sanremo mi viene l'orticaria. Io di videogiochi ne sa poco e niente. E non fai quiz. Dopo ne ho uno di quiz. Le cose scandalose. Ok, dopo che abbiamo insultato un po' Cristiano. Marco, invece tu, quando è che hai visto questo passaggio, insomma, da tappetino? Io sono stato molto brusco, perché sono passato dall'Atari 800 mi sono accorto proprio. Ci tocca il cazzo. Nintendo 64. Mi dicevo, cazzo. Quindi, insomma, è stato un bel passaggio. Esistono anche i suoni diversi da beep e boop. Insomma, quindi... no, che poi abbiamo citato alcuni titoli. Qui facciamo proprio velocemente perché voglio una cosa molto secca da voi. Anche io, per esempio, ho detto Monkey Island 2. E Giuseppe, non mi ricordo, lui ha detto il fatto del multimedia. Però c'è proprio un titolo che secondo voi ha sancito per voi nella vostra memoria questo passaggio, questa transizione che comunque ha dato il via, diciamo, al passaggio dell'era tappetino musicale all'era colonna sonora dinamica, tra virgolette. E poi Stefano, poi Caliendo, poi Giuseppe e poi Marco. Aspetta, adesso tocca a me o c'era prima qualcun altro? Vai, ti ho chiamato per prima. Ok, no, ho sentito Stefano, però mi ero distratto di Stefano. Quindi c'è sempre un... smettetela di usare il mio main team, per cortesia, così è gratis. Se no ti senti, giusto, non ti senti chiamato in campo. Senti chiamato in casa. Sente il suono e si sveglia. No, allora, colonne sonore incredibili per me. No. Allora, aspetta, te lo ripeto, mi sono perso la grande, vabbè. Quando ti serve un titolo che secondo te ha sancito questa transizione tra colonna tra tappetino per musicale per te, e colonna sonora per te, fatto, cioè quello che proprio tu quel giorno che lo stavi giocando hai detto vedi però le colonne sonore sono cambiate. Cacchio, io ci metto uno secco, sì, sì, sì. Final Fantasy 7. Ditemi. Bastardo, bastardo, me l'hai fregata. No, sapevo che è abbastanza, cioè come dire, non potete dirmi di no. Mettiamola così, è abbastanza banale, se ci penso un po' probabilmente me ne viene una anche più particolare, però se penso a una colonna sonora incredibile, particolare, che proprio mi viene in mente Final Fantasy VII. Che poi Final Fantasy in realtà ci hanno sempre avuto tutti una colonna sonora molto specifica, che scadenzava molto i momenti delle situazioni, nei giochi vecchi. Anche il 6, devo dire. Però il 7 era... Cioè, c'avevamo diciamo, tutto il boss fight finale con la musica. Non per cosa, col coro orchestrale stile Carmine Burana. Giuseppe, sembrava di avere il gioco aperto in questo momento, grazie alla tua ma appunto cioè le pezzi Mako Reactor, i vari Gold Saucer, il tema di Aeris, tanto perché dobbiamo mettercelo pure dentro. Sono cose che più o meno chiunque abbia vissuto un certo periodo nei videogiochi, se li ricorda, se ci ha giocato, se li ricorda per forza. Se ti fanno schifo i giochi di ruolo, non ci hai mai giocato, probabilmente ti ricorderai altro. Però a me viene in mente come, tra virgolette, come punto di rottura. Io penso che una persona che non ha giocato a Final Fantasy VII è una brutta persona. Ma io non dico che ti deve piacere, io dico almeno provarlo. Però a suo tempo, perché secondo me giocato adesso è un po' pesante. Comunque questo è un altro discorso, ne parliamo nell'occhio del Beholder magari. Non ne parliamo qui. Comunque sì, per me quella è stata una colonna sonora che mi ha colpito estremamente, tra le più importanti, diciamo, tra quelle che mi hanno colpito. Poi tempo dopo ne sono arrivate anche altre delle quali parlerò più tardi, diciamo, però la prima che per me ha segnato un punto di rottura è stata questa, secondo me. Poi allora visto che mi ha rubato la mia idea, devo recuperare. Io allora rilancio con un altro titolo, sempre PlayStation 1, che però per me è stata rottura non tanto nell'accezione, come sempre, che può intendere Simone, rottura perché ha un taglio registico eccetera, perché quella ci sarebbe, la dico solo per fare contento un nostro collaboratore che sarebbe Logan, ossia quella di il primo Metal Gear Solid. Però quella che a me, diciamo, proprio detto la rottura, perché detto è stato il primo gioco musicale che io ho fatto vero e proprio, PlayStation 1, Parappa del Rapper, la potevi giocare, I got to believe it. Sì, ma l'importante è che poi sono passato io per quello che vedevo la stessa. Ma no, vabbè, era figo Parappa del Rapper, io le so a memoria quasi tutte, era molto bello, le so a memoria. Sì, sì. Era bello, ma come rottura forse non saprei. Quello forse ha segnato l'inizio del Rhythm Game. È rottura l'accezione sempre del gioco, dico, del gameplay, cioè del fatto che la musica diventa un'esperienza interattiva. Interattiva dove sei tu che decidi anche i ritmi, le cose, no? Non che sei, diciamo, un po' più passivo, no? Io ci metterei quello, ma anche per me è un po' anche Bust & Groove, che aveva anche lì, era sempre un rhythm and game, stile un po' Parappa del Rapper, anche quello aveva la colonna sonora peggiore secondo me di Parappa del Rapper, che era simpatica e divertente, però anche quella là ti colpiva. Ma ripeto, non mi batte non so se hai sentito pure, però mi pare quello era già PS2, Gitaro Man. Sì, però uno ne dovevamo dire. Vabbè, ok, ci siamo persi nella cosa. Andate. Caliendo? Sì, ce l'ho. Allora, in realtà due cose da dire. La prima è che volevo fare i complimenti a Stefano, perché mi ha citato Ivana Spagna e subito dopo ha detto non parlare di Sanremo e non vedevo girare la frittata con questa classe. Ma se l'è segnata sta cosa. La seconda cosa, Full Throttle, ovviamente, cioè per me è stato vero. Sì, perché cazzo. Partiva questa canzone, diciamo heavy metal, hard rock, ed era una cosa per me mai vista. Vabbè, poi sono digitalizzato. Allora a questo punto ti faccio, diciamo, sfondi una porta aperta. Io ti dico già da prima, a questo punto Indiana Jones e The Last Crusade solo perché hanno ricreato un tema musicale famoso, conosciuto da tutti, insomma. Sì, anche se io non so, non so incline andare a pescare proprio cose che più o meno erano già esistenti, anche se poi Marco nella sua lista in realtà, anzi più o meno, insomma, forse più Caliendo. Vabbè, poi vediamo, adesso ci arriviamo. Comunque, Marco, invece tu qual è il secondo del titolo che proprio dici, oh, basta, questa qui è proprio diventata colonna sonora? Uno lo dirò dopo. Va bene. Un altro invece è quello che mi ha fatto proprio vedere la differenza, proprio perché c'è stato il salto plurigenerazionale, perché sono passato da Joust, Donkey Kong, Blip Ninja, Cazzo Imperi, sono finito al primo gioco Nintendo che ho comprato, che per cui ho comprato anche la cosa che è Shadow of the Empire, che aveva tutta la colonna sonora di Guerra Stellare John Williams, forse mi digitalizzata. Forse mi hai steccato la cosa de Caliente. No, l'ho appena rimossa, non c'è problema. L'ha sostituita con quella dopo. Viene dopo. Sì, ho fatto come Giuseppe, ho subito cambiato. Aspetta, a questo punto per sancire questa specie di gaffa, che poi non è una gaffa. No, giusto, perché insomma, come, purtroppo lo devo dire perché è così. No, ma dici, no, era bella, era molto interessante, perché non era di John Williams in realtà, ma era di Joel McNeely, però era molto williamsiana come colonna sonora. Shadows of the Empire. Sì. Cioè, lui prendeva Shadows of the Empire, c'ho tutte le colonne, sono tutta la colonna. Io c'avevo quello per Nintendo 64, aveva tutte le colonne, le musiche originali. Sì, c'erano le musiche originali di Williams, c'erano anche composizioni nuove molto Star Wars, diciamo, nel sound, che erano di quest'altro compositore che fra l'altro già aveva lavorato per la Lucasfilm con il giovane Indiana Jones. Non è detto che fossero nella versione che poi guardate proprio, però, proprio curiosamente non è un caso, io continuo a dire, voi mi dite se sei un lucasiano di merda e va bene quello che fa male, ma non è un caso che comunque gli esempi più direttamente collegabili anche al punto che adesso stiamo per introdurre sono proprio esempi lucasiani, perché noi abbiamo citato la dinamica di Monkey Island 2, abbiamo citato Full Throttle perché c'era comunque la sua colonna sonora specifica, costruita appositamente e cantata tra l'altro, quindi insomma ancora che tra l'altro sarebbe anche il gioco di The Cage, Nomad Soul, che pure quello c'aveva alcuni aspetti similari. E poi c'era The Dig, che io non ho messo nella mia lista, che di cui parleremo dopo, però The Dig, ragazzi, secondo me dopo Mass Effect c'aveva la colonna sonora sci-fi più d'atmosfera della storia dei videogiochi, cioè non ci so cazzi per me, poi dopo ognuno, io non l'ho messo perché perché in realtà mi è venuto in mente adesso però in realtà se lo meriterebbe. Guarda, Simone, se non si merita quantomeno una citazione. No, scusa, la citazione è lui e Dune, il primo videogioco con un piccolo aneddoto, si chiama Spice Opera ed è fatta da due francesi la colonna sonora di questa Spice Opera, sì, del primo, quello che era un mix tra un punto e clicca e uno strategico, sì quello della Cryo, esatto. Fatto sta che la grafica bella, quello con la grafica stupenda secondo me tuttora per certe cose, fatto sta che quel disco lì i detentori dei diritti, che adesso non mi ricordo chi è che sono, non volevano lasciare i diritti ai due compositori che hanno creato la colonna sonora tutta usando synth, cose varie, secondo me è stupenda, musica un po' ambient, un po' insomma, roba particolare. Fatto sta che loro cosa hanno detto? Hanno detto, beh, sapete che c'è, ragazzi, l'internet è un posto grande, se voi cercate troverete la nostra colonna sonora. Loro stessi se la sono messa online, perché hanno detto, se non la possiamo vendere almeno ve la facciamo ascoltare, e si sono autopiratati praticamente. Sì, era la Virgin Records la Virgin, ok. Sì, era la Virgin. E fatto sta che se voi cercate infatti Spice Opera di Dune, trovate questa colonna sonora qui, che secondo me è bellissima, era bellissima all'infinito, e secondo me un po' se la, da noi si dice se la guerra, se la batte con quella di The Dig per certe cose. Quella di The Dig è più ricercata, secondo me, un po' più elegante. Perché era d'atmosfera, cioè era più una roba. The Dig era proprio ambiente. Era successiva, forse. Cioè era un po' più complessa, diciamo. Quella di Dune è un po' rozza su certe cose, però è estremamente calzante col videogioco, ma anche con le atmosfere del libro, di tutta l'opera. E sì, poi è assurdo. Ed è fatto dai francesi, è incredibile che abbiano fatto qualcosa di decente. No, non è vero, poveri. Vabbè, no, dai. Hanno fatto la bomba idrogeno. Sì, hanno fatto la Gioconda, ad esempio. Hanno fatto la Gioconda. No, hanno fatto la Statua della Libertà, che gli era riuscita talmente bene che l'hanno dato agli americani. È vero, che poi io mi affascina sempre questa cosa di sta Statua della Libertà. Come cazzo hanno fatto a portarla dall'altra parte? Lo sapete da dove proviene il marmo, anzi il granito della base della Statua della Libertà? Da Carrara? Dalla Sardegna. Ah, grande. Hanno saccheggiato. Andateci al marmo. E poi dopo, adesso andiamo al secondo punto. Però volevo dire, il caso di The Dig è un caso veramente particolare. A me una volta mi piacerebbe proprio parlarne, perché tanto so che su Calavera non me lo fanno fa. Peccato che abbiamo chiuso la trasmissione adatta, però vabbè. Potremmo riaprirla, potremmo solo per appositamente. Non mi fanno parlare dei miei giochi che mi piacciono su Calavera. Quindi... parla solo di Sanremo, Cristiano. Sanremo. Bravo, lo vedi che c'è un alleato. Simone, ma in realtà parlare pizzi di The Dig, per favore. The Dig l'abbiamo messa in una volta in Calavera. È un caso particolare, perché è, secondo me, un'avventura ad un fascino straordinario. E anche bella, perché io comunque me la sono giocata più di una volta. Ma poi doveva secondo me non è riuscita, non si sa bene perché. Ma poi doveva anche diventare un film, cioè nel senso, c'è da farci un episodio e basta, secondo me. Beh, sì, forse quello forse è più una leggenda, quella del film, però più che altro. Non lo so, bellissimo, però. Io a me piace immaginare un film su The Dig, guarda. Perché poi racchiudeva proprio tutto quello che mi è sempre piaciuto un po' di un certo tipo di fantascienza. Cioè tu vai in un mondo alieno e trovi resti di una civiltà, non la civiltà, capito? Cioè, che è una cosa, ti immagini, sai che cazzo erano questi, che facevano? Quando lui scongela lì, fa ritornare in vita per qualche secondo l'alieno che gli dà tutte le informazioni, no, bel genere. Per me quello è il momento di goduria proprio massima. Tra l'altro, Pannocchia, non hai fatto il gameplay in italiano di The Dig? Ma Pannocchia non ascolta dietro, non lo so. Vabbè, io lo dico. Pannocchia lo ascolta, ascolta Pannocchia. Grandissimo Pannocchia. Sta sempre l'orecchio visto a sapere se parlano di lui. Che stavi dicendo, Caliendo? No, stavo dicendo, per agganciarmi un po' a quello che stavi dicendo tu, non so se era un po' questo quello che volevi dire, il fatto che la Lucas riusciva ad avere questa attenzione alla musica, secondo me un pochino deve essere stato un po' il retaggio cinematografico della casa, cioè nel senso che se loro hanno fatto roba come Indiana Jones, no? Quindi c'era quel retaggio appunto di Williams, quell'eredità tematica di brani tematici, no? che cercavano di individuare attraverso i personaggi, attraverso la sequenza, no? Tutte quelle, cioè musica che parlava, che attraverso la musica parlava la scena, no? Capisci che intendo? Cioè, per esempio, Monkey Island 2 non ha soltanto il main team, ma la musica adatta prima di LeChuck, poi di Wally, poi di il tema di Largo la Grande, dai. Il tema di Largo la Grande. Fantastico. Che può sembrare una stupidaggine, però sai, essendo poi pure il primo in realtà era così, il primo Monkey Island. No, ma la Lucas c'aveva il vantaggio da attingere a piene mani, da risorse anche umane che probabilmente altre software house non avevano. Tu se ci pensi... Va bene. Sì, vabbè, scusa, no, hai ragione. No, scusa, perché purtroppo poi noi ci siamo ripromessi con DVL, insomma, di stare sempre in determinati tempi, tant'è per che bypassiamo un punto. Non diamo risposte, facciamo solo domande, solo per restare. No, noi facciamo una chiacchierata fra di noi, ci piace. E purtroppo non c'è rimasto tantissimo tempo, quindi dobbiamo bypassare un punto. In realtà poteva essere più o meno interessante, però magari potete fare accenni al punto che ho bypassato, magari parlando ovviamente di quello che andiamo a parlare adesso. Perché io vi ho chiesto nella progettazione dell'episodio di indicare le 5 colonne sonore alle quali siete più legati nel mondo dei videogiochi e magari anche il perché, cercando di dare delle motivazioni e soprattutto rimanendo insomma in un tempo. Io partirei da Stefano, che è stato l'ultimo a inserire tutto. Io sì, ho inserito tutto, ho inserito anche gli MP3 ai quali mi riferisco, quindi ho fatto un lavoro quasi certosino, adesso non esageriamo. Però inizio con... Quando dici così ti riferisci ovviamente al gatto. Al gatto, sì, esatto, al gatto, gatto certosino. Esatto. No, al formaggio, alla certosa per la precisione. Comunque, ha detto che non perde tempo e diciamo stronzate. Quello non è mai perdere tempo, Pizzi, per favore, adesso. Gran parte della mia vita viene gestita così, comunque. Ma sì, anche la nostra, tutto sommato. Io ci metto per iniziare la colonna sonora, una colonna sonora a cui sia io che mio fratello, che saluto, siamo molto legati, che è la colonna sonora... Francesco. Ciao Francesco, esatto. La colonna sonora di Chrono Cross, seguito di Chrono Trigger o Trigger. Bastardo che sempre io devo nominare nelle mie cinque. Non è la stessa cosa, però. No, il mio è Chrono Trigger, però. Ah, però okay, non parlo di Chrono Trigger. Parlo di Chrono Cross, perché Chrono Trigger ci abbiamo giocato molto tutti e due, sia io che Francesco. Anche Chrono Cross, gioco su PlayStation 1, seguito di Chrono Trigger, un gioco estremamente particolare, dotato, un RPG dotato di... L'avventura testuale, No, un RPG. Era un gioco di ruolo standard, in realtà partiva da un'avventura testuale per... Ah vabbè, c'era l'avventura testuale. Per una cosa online, per un sistema online misconosciuto giapponese che era Radical Dreamers. Esatto, di cui mio fratello iniziò a fare la traduzione, tra l'altro. Mm-hmm. E poi non la finì più perché si ruppa il cazzo, penso che il termine giusto sia questo. Comunque, fatto sta che Chrono Cross, gioco di ruolo particolare con un'ambientazione un po' caraibica, tropicale, eccetera, eccetera, dotato di una marea di personaggi, mi pare che fossero 20-30 personaggi sbloccabili ogni volta che dovevi trovare il modo. Anche di più. Mi ricordo che dovevi trovare il modo in ogni partito, ogni volta che riniziavi, perché c'era il continua più come in Chrono Cross, in Chrono Trigger, dovevi trovare il modo per accumularne sempre di più senza perderne altri. Non ricordo se lui ci sia mai riuscito. Fatto sta che aveva una colonna sonora che, a furia di sentirla, ti rimaneva impressa, mettiamola così. Quindi ho inserito un pezzo di questa colonna sonora, che mi è rimasto particolarmente impresso. In certi casi non sono neanche pezzi che dici sono pezzi stupendi o che memorabili, però sono, per me rappresentano un po' l'essenza del gioco per come l'ho vissuta io in quel periodo, quindi per come me la ricordo io. Il gioco, se vi piacciono gli RPG tradizionali, tutto sommato è bellissimo. Se non vi piacciono, cercate una cosa nuova, non è il massimo forse da un certo punto di vista, però rimane comunque un gioco particolare da giocare assolutamente se siete appassionati della saga di Chrono Trigger. E niente, detto ciò, passo prossimo. Al secondo. Yes. Ma li dico tutti o facciamo sì, una sì, testa? Sì, vai, tutto di fila. Tutti velocemente. Ah, ok, allora non mi dilungo. No, più che altro punta l'attenzione sulla colonna sonora di questo gioco che magari... Mm-hmm. Allora, in questo caso qui è inutile che mi metta a parlare del gioco, perché se non lo conoscete non state ascoltando questo podcast probabilmente. Soprattutto, e parlerò di Castlevania in questo caso il... Mai giocato, ecco, male. Malissimo. E in questo caso parlo della colonna sonora, di un pezzo della colonna sonora che si chiama Wicked Child, che gli appassionati sicuramente conosceranno, che fa parte della colonna sonora classica, diciamo, dei Castlevania classici, e anche di un altro pezzo che si chiama di cui non ricordo il nome sinceramente, ma che è della versione per Mega Drive, ovvero Castlevania Bloodline di New Generation, che è l'unico gioco per Mega Drive della saga di Castlevania. L'ho detto un po' a culo, però ci siamo capiti. Tosta che io possedevo Mega Drive e non un Super Nintendo, e quindi dicevo Castlevania, finalmente uscì Castlevania Bloodlines e c'era questa colonna sonora che sfruttava molto bene, secondo me, il chip del Mega Drive, e anche questa qua mi è rimasta molto, molto impressa, sia il gioco ma anche la colonna sonora, non li posso separare perché li ho collegati decisamente in maniera indissolubile. L'altro è al 100% una colonna sonora che so a memoria, che ho sentito, che avevo anche in macchina addirittura un periodo, ed è Sonic, il primo Sonic per Mega Drive, incluso nella memoria del cosiddetto Mega Drive 2. Ma quale colonna sonora di Sonic? In particolare, del primo Sonic, quella, in particolare la Green Zone. che è il primo livello, sì, e anche lo Spring Yard Zone, che mi pare che sia, che è uno degli ultimi circa, comunque dopo forse il quarto e il quinto, adesso non sono sicurissimo. Comunque sono tutta la colonna sonora, io l'avrei messa tutta, ma ovviamente non faceva, però quella è la sua memoria, mi fate sentire un pezzo e ve la continuo. Ma secondo me ti piaceva anche perché comunque le colonne sonore, specie del primo Sonic, si intonavano bene comunque con la sensazione di velocità del platform, no? Sì, che sì, sì, erano studiate come veloci. Sfrecciavi a 1000 all'ora e sentivi, diciamo, una colonna sonora che teneva il ritmo, no? Esatto, erano veloci, erano abbastanza con un tempo abbastanza accelerato ed erano assolutamente in tema con quello che era il livello, con i suoi colori, con i suoi nemici, proprio col ritmo del livello, anche non solo col ritmo del gioco. E quella del primo sicuramente è quella che mi è rimasta più impressa tra tutte, assieme forse alla questione, alle questioni di Sonic 3, dove in parte si narra che ci abbia messo lo zampino Michael Jackson sotto falso nome, che poi abbia ritirato questa cosa. Esatto. Sì. In seguito aveva ai suoi problemi. Aveva cominciato a lavorarci, però poi per una questione, diciamo, di diritti con Sega non è più andato in porto. Ma io so che c'erano... Infatti c'è diciamo un loop, una parte musicale che è molto accelerata, ma che se la senti a rallentatore sembra presa come sample da Smooth Criminal. Ma io mi ricordo anche che un'altra cosa era che una delle varie teorie era che Michael Jackson si lamentò a suo tempo delle poche capacità, che non c'erano bambini, no. Anche delle poche capacità musicali, diciamo, della console. Esatto, della cos'è console. Questa console di merda, esatto. Scusate, cosa mi fate lavorare qui? Tra l'altro però era nera come la sua pelle originaria, esatto. Forse per quello, cos'è questa cosa nera, un periodo sbiancato, un po' bleach. Vabbè, andiamo avanti, quindi tolto Sonic e Sonic 3, di cui mi colpì questa faccenda, ci metto le colonne sonore in generale di Double Dragon per Sega Master System, però specifico la versione che ci ho giocato tantissimo con i miei cugini, che saluto. Stefano, sempre il main team di Double Dragon, quello no, no. Però in generale mi ricordo il secondo e il terzo livello, cioè ho inserito come musica, okay. Diciamo che è quello, quei pezzi lì che mi ricordo, quello no, perché il main team, diciamo, di Double Dragon in realtà ebbe tanto successo in Giappone che su quella base musicale ci fece proprio la canzone cantata da delle idol. Ah, questo no. Ricordiamo. Vai. Quello, poi velocissimamente cito i primi giochi per NES, ovvero Excite Bike e Golf. Non avevano una grande colonna sonora, ma avevano i vari temi iniziali, quelli di Game Over, quelli di passaggio tra un livello all'altro, che mi sono rimasti molto impressi. E l'ultimo, ma non l'ultimo, lo so che erano 5, ma non me so per in più, Robocop 2 per NES, sempre gioco che per NES solito faccio... raccomandato che mette le cose in più, lo so, scusate. No, ma anche quello lì è un gioco che ho stragiocato, forse non avevo dovuto stragiocarci, e anche lì certi livelli avevano queste atmosfere un po' cupe, particolari, un po' in tinta Detroit, Robocop. Infatti Detroit ha fatto la fine che ha fatto, forse per colpa di Robocop, non lo so. Forse perché non è arrivato Robocop, forse per quello. Queste sono comunque le colonne sonore alle quali tu sei comunque più affezionato, diciamo. In generale sì, cioè sono quelle che se mi nomini il gioco ti dico la colonna sonora subito, cioè te la canto, diciamo, mettiamola così, te la canto e te la suono anche. Ricordami di non dirtelo mai. Esatto, non dirlo mai. Va bene, io passerei a Caliendo, perché Giuseppe me lo tengo caldo. Sì, allora il gran finale. Io cerco di essere... Sì, dice, scusa, Stefano. Quello che hanno preso il Giuseppe è tutto nudo e tutto caldo. come lo citando un'altra cosa elevata, un'altra cosa elevata, la qualità sale o no? Anche qui ci metterei un bel no, io vado, cerco di andare veloce. Allora, la prima che ho scelto è prima una cosa volevo dire, secondo me, io per quanto voglia bene al chiptune e questa roba qui, io dopo 3 minuti non ce la faccio più ad ascoltarlo onestamente, cioè secondo me il passaggio tecnologico dell'orchestrale è stato cruciale, o comunque quando hanno cominciato a usare, esatto, strumenti un po' più sofisticati, quando si è avvicinato un po' più al cinema, per intenderci. Quindi per me l'analogico non si batte da questo punto di vista, per me la ma il passaggio è stato fondamentale, perché sì, è bello il chiptune, quello che te pare, in effetti è divertente, ti fa simpatia anche come revival, però sì, insomma dopo un po' dubbio. Sì, e quindi niente, quindi quelle che ho scelto sono alla fine poi colonne sonore abbastanza recenti, tipo la prima che ho messo è quella di Braid, il gioco che conosciamo tutti, sì. Dunque, io da quanto ho capito in realtà non sono composizioni originali, ma l'autore è andato a pescare un po' dal mondo indipendente per risparmiare un po' qualcosa. Ha rubato, no, non lo so se rubava, forse era roba comunque su licenza, magari pagava anche. Pagava un pochino, secondo me, sì, non erano free, questo mi sembra di aver capito. Comunque, mi risulta che per per gli artwork delle scene di Braid siano stati proprio siano stati ispirati dalla musica che aveva scelto Blow, sì, precedentemente, no? Allora sì, io cito solo due brani, comunque tutta la colonna sonora è valida. Allora, la prima è Downstream, che è quella che si sente nel primo livello, ed è questi toni un po' bellissimo, esatto, questi toni un pochino irlandesi, che in effetti poi dai fondali si nota questa cosa, perché ci sono questa atmosfera un poco idilliaca da tutorial, no? Con questi giardini, questo verde. Io l'avevo associato appunto alla cosa proprio bucolica primaverile, esatto, sì, come se seguissero proprio la musica, seguisse le stagioni, perché se vedi poi c'è pure una parte più estiva, più là, esatto, nei livelli, e poi diventando più cupo anche proprio invernale. Sì, sì, sì, esatto. Questo segue un po' la musica Downstream di questo Shira Kamen, mi risulta. Uh-huh. Mentre invece quella che ho scelto per questa, magari fosse stata ascoltata in questo momento, si chiama Undercurrent di Jamie Sieber, che è l'ultima, quella che si sente nell'ultimo livello, che ha questa particolarità. All'inizio, spoiler per chi non ha giocato a Braid, ma insomma cerco di andare su vago. All'inizio si ascolta al contrario, perché c'è questo reverse, no? E poi dopo si ascolta nel verso giusto. In entrambi i casi, in qualche modo, si riesce ad apprezzare. Cioè, si riesce ad apprezzare anche quando è al contrario. E secondo me questo è un momento importante anche dal punto di vista proprio del videoludico, perché per quanto mi riguarda è forse uno dei momenti più elevati della mia esperienza videoludica di sempre, l'ultimo livello di Braid, perché riesce a coniugare un twist narrativo, perché è narrativo, senza andare a spoilerare, comunque c'è in quel livello, con integrandolo perfettamente a un gameplay che in realtà stai già utilizzando da molto tempo nel gioco, e la musica insieme riesce anche a parlare, perché appunto essendo prima al contrario e poi nel verso giusto riesce a essere proprio integrata perfettamente. Quindi per me, al di là della bellezza del suono, qui è proprio per come è stata utilizzata nell'ultimo livello, che spacca. Vabbè, questo è il primo. Il secondo che ho scelto è l'unico gioco della LucasArts, ho sofferto moltissimo perché li avrei detti un po' tutti, ed è Outlaws di Clint Bejekian. Beh, qui Morricone, esatto, a piene mani, Morricone, proprio, Morricone, facciamogli. Morricone gli ha pure scritto a questo, gli ha detto: bello. No, io gli facciamo, sai che... cioè, ricordiamo questo compositore scomparso da poco per mano della mafia morriconica. Non è caduto all'affetto dei cari, così giova. No, io tu dicevi. Ma io Morricone, scomparso da poco, da pochi giorni. Ah, poveretto, è un idolo assoluto. Comunque, no, io non so se Morricone gli ha scritto, ma io scrissi a Clint Bejekian, che è l'autore, Bejekian, non lo so. Che l'autore... solito cagagazzi ci doveva essere uno. No, l'ho scritto per fargli complimenti, perché mi era piaciuto un sacco. Dissi la cosa tipo che era alcuni pezzi erano meglio di Morricone, così fa il lecchino un po'. Ma abbiamo No, cioè, veramente carino. Ma che schifo. Per me. No, esatto. aspetta. Non allora... ti vendere per quella brutta persona che sei. No, ma quello che succede, no, scherzi a parte, quello che è successo con Outlaws, a parte che, vabbè, stiamo parlando di quel sparatutto in prima persona western, no, che in realtà era un po' in ritardo sui tempi, perché era 3D finto, mentre invece già i tempi... La cifra in ritardo con i tempi, pure la cifra brutto, tra l'altro. Vabbè, comunque c'era questa colonna sonora che ovviamente pescava a piene mani dalla roba di Morricone, che aveva fatto per i suoi film di Sergio Leone, ma non solo, comunque in generale tutti spaghetti western. E dunque, qua proprio si è visto proprio il talento di uno che ha studiato veramente la, la musica di ispirazione e ha cercato di ricrearla, ma non, non, a parte il, cioè non, è, non si tratta di plagio, è proprio aver indovinato il sound, è l'usare lo stesso stile, le stesse sonorità in maniera comunque personale. È infatti personale perché comunque ci sono dei brani, delle melodie, dei temi che sono originali poi in effetti, no? Quindi qui veramente è stato bravissimo, ha usato un'orchestra vera, mi risulta, quindi per la prima volta, perché poi per Indiana Jones and the Fate of Atlantis erano come musiche campionate. Allora c'ho qualche brano qui, uno si chiama Outlaws, che è appunto la musica del primo livello col tema principale, poi The Train, che è quella che si sente nell'introduzione, ed è anche l'introduzione è bellissima fra l'altro graficamente, quindi la consiglio. Poi c'è Sanchez di Outlaw, che è un pezzo anche un po' messicano tipicamente western, però quello lì che si sente, dovrebbe sentirsi adesso, si chiama Century, che oltre ad avere una specie di oltre ad avere questi sound di Morricone tipici, cioè il fischio, l'armonica, la chitarra acustica, il rick track, sì, quelle cose lì, si sentono proprio degli effetti sonori come la finestra che sbatte, il coyote, lo sparo in lontananza, l'eco eccetera, che fanno pure un po' da supporto sonoro, proprio effetti sonori che entri proprio nell'atmosfera western. Quindi questa è proprio veramente veramente bella, questa qua di Clint, ma c'è anche, che ci aveva anche scritto nel nome evidentemente il suo destino, che Clint, ma... Io l'ho preso immediatamente questo gioco perché western, Lucasfilm Games, per me era l'apoteosi della garanzia. In realtà il gioco, diciamo, il gioco non era eccezionale, aveva delle cose carine, vabbè, comunque. Sì, volevi dire un altro, qualcuno voleva dire qualcosa, no? Avanti. No, non so se qualcuno faceva dei mugugni. Sì, esatto, è un giocaccio, dai, tutto sommato. No, un giocaccio. Un giocaccio che era spoglio graficamente, era proprio brutto. Però era col vecchio motore del primo Doom, dai. Sì, forse no, sì, quasi era il motore, credo, di Dark Force, credo. Sono sicurissimo. Comunque va bene, il terzo gioco è Little Big Adventure 2, fatto da un francese, Philippe Vessy, quindi un'altra volta questi francesi che tornano a rompere le scatole. E, allora, secondo me questa colonna sonora è particolarmente bella perché riesce in qualche modo a indovinare veramente alla perfezione il mood del gioco, perché voi, se ricordate, Little Big Adventure è una specie cioè i personaggi sono buffi, sono tenerosi, fanno versetti strani, però poi la storia è epica, cioè è un'avventura super epica, enorme, no? anche eroica. E qui infatti i tracce musicali sono, inizialmente sembrano giocattolose, no? Poi dopo parte all'improvviso l'epica, no? questa musica avventurosissima, quindi va bene. C'è Song of Gabriel, che è malinconica, stupenda, la musica dell'introduzione fondamentalmente, Honey Bee, Emerald Moon, e quella lì che ho scelto è The Empire, che forse è la migliore per quanto a parte il tema principale, che fra l'altro c'era già nel primo, che appunto è quella che fa capire, insomma, che riesce proprio a entrare perfettamente nell'atmosfera del gioco. Esatto. Vado avanti velocemente. Allora, Alone in the Dark, che questa in realtà è un gioco che non ho neanche giocato, perché parlo dell'ultimo, quello lì dell'Atari, per intenderci. Però ho ascoltato la colonna sonora, che peraltro è abbastanza nota perché la pomparano parecchio ai tempi, di Olivier, un altro francese credo, Olivier Derivier. Forse canadese, dai. Non diamo tutto il merito ai francesi. Alone in the Dark però è sempre stato il nostro francese. Gioco sì, è stato una diciamo belga, potrebbe essere belga. Allora, non diciamo cose brutte perché ho scoperto che la mamma di Logan è francese. No, sono detto di ridarci la nostra Gioconda e in Marò anche, visto che ci siamo. Ma ero io che stavo le cose così, sempre col mio amore per i francesi, giustamente, vabbè, normale. Allora, questo si chiama Olivier Derivier, qualcosa del genere. Io con i nomi francesi proprio negatissimo. È comunque lo stesso che ha fatto la musica di Remember Me ultimamente. Vabbè. Comunque, allora conferma, Marco conferma. Marco conferma. Conferma. Conferma. Allora, Alone in the Dark, no, la particolarità di questa colonna sonora è che fa uso di questi famosi cori bulgari, no? Che in realtà io non avevo mai sentito in un videogioco. E quelli del Pippero, diciamo. Sì, è più umano, più vero. Siamo lì, insomma. Più umano, più vero. sì, no, comunque è figa la colonna sonora. Non l'avevo sentita neanche al cinema, però l'avevo sentita in televisione, ovvero, qua qualcuno riderà, la colonna sonora di Xena, la principessa guerriera, naturalmente, ovvero... Mamma mia, no, no, aspetta, guarda che è vero, la musica di Xena, che è fatta da Joseph Loduca, che è il compositore ufficiale dei film di Sam Raimi, quando vuole fare i film cazzeggioni, aveva due brani con Cory Bulgari, che a differenza di Alone in the Dark, però, sottolineavano, diciamo, l'aspetto guerriero e femminile della storia, mentre invece Alone in the Dark è molto tesa e molto inquietante, e quindi l'utilizzo è completamente diverso, però è efficace in tutti e due i casi. Cito due brani: uno è Edward Carnby, che è appunto il tema del protagonista, e un altro che è quello che state sentendo, si chiama Who Am I? Chi sono io? Che sono due. Ma posso dire, scusa, solo una cosa e poi ti faccio finire, sì, che se lo spottiamo adesso, così almeno la gente lo sa e cerca di non staccare quando finisce la trasmissione. Se volete sapere come Marco Gualdi è riuscito ad inserire i cori bulgari con il suono di Mass Effect, dovete ascoltare i Geronto Gamers alla fine della puntata per poi chiedergli dove compra la droga. Ma quello glielo chiede la prossima puntata a voi. Facciamo la puntata apposita. Esatto. Vai, Galliano. Vabbè, no, niente, quindi ci sono questi due brani, questi due temi che tornano riorchestrati e ricantati in maniera diversa per tutta la colonna sonora. Poi chiudo con l'ultimo, che è l'unica avventura. Un giocone, questo è un giocone. L'ultima, sì, l'ultima avventura, cioè l'unica avventura grafica che ho inserito, ed è The Last Express, il gioco di Jordan Mechner, amicone nostro. E la colonna sonora si è di Ilya Kmiral, no, non si pronuncia Kmiral, ma non mi ricordo come si pronuncia, non importa. Vabbè. Myril. Sì, questo deve essere. Che te frega, l'altro non lo sa nessuno. Myril. Come Clatube, no, Donico. Verada, Nicto. Comunque. Okay. Allora, aspetta, scusa. Sì, dimmi. Peppe, ridillo. Clatù, Verada, Nicto. Ci avessi un po'. Dovuto messo il bar sotto, anche stacca, se in realtà stava bene. La cosa è la tu varata. Questa forse Caliendo la sa, l'ha capito. E partiva in alto una tomba. Sì, l'ho capito. C'è anche un epico link, perché abbiamo appunto citato Xena, Joseph Loduca, la colonna sonora di, esatto, Armata delle Tenebre. Esatto. Di questo tipo. Vabbè, comunque. Allora, no, questa colonna sonora di The Last Express è particolare perché, cioè, è veramente un gioco, come direbbe Simone, monumentale, no? E vabbè, qua la predominanza è del violino, perché c'è coprotagonista, o meglio, il personaggio principale femminile è una violinista, quindi si sente molto spesso questo violino. Da sottolineare che verso la metà del gioco c'è proprio un concerto. Muore. C'è un concerto, una specie di duetto fra violino e pianoforte, che dura mezz'ora, tre quarti d'ora. Noi possiamo stare anche lì ad ascoltarlo per tutto il tempo, oppure ci andiamo girando per il treno. Non sono composizioni originali, però comunque fa capire, sono chiaramente riarrangiamenti originali, però fa capire quanto è stata importante la colonna sonora di questo gioco. Allora, io ho scelto il brano End Credits, che invece ovviamente è originale, fa parte della colonna sonora original soundtrack, che si ascolta appunto nei titoli di coda e racchiude un po' i temi principali del gioco. E la cosa particolare che mi fa ricordare bene questo brano è che mentre suona noi abbiamo davanti a noi la mappa dell'Europa, che si trasforma, diciamo, nel tempo secondo le guerre che ci sono state nel Novecento. Quindi praticamente associate a questa musica, che è molto malinconica, è molto struggente, no? Dà proprio l'idea della tristezza, proprio dell'impotenza di fronte alla guerra, che è un po' lo stato d'animo del protagonista nell'ultimo quarto di gioco, più o meno, no? Quindi proprio vedi là la trasformazione dell'Europa sotto i tuoi occhi, che è dovuta a guerre, morti a destra e a sinistra, e quindi ti senti triste e ti vai a ascoltare Sanremo poi dopo, probabilmente. Quindi questa è tutto. Sicuramente. Grazie. Ne avremo voglia. Benissimo, grande gioco, comunque veramente giocone, è vero. Anche tecnicamente, insomma, un gran gioco. Ma abbiamo parlato su Calavera Caffè, quindi andatevi a ripescare chiaramente le puntate di Calavera Caffè. Detto questo, ora sono indeciso se fare Marco o se fare Giuseppe. No, lasciami per ultimo, dai. Ah, ok, perfetto. Allora sei perfetto. Allora vai, Marco. Allora resterei per ultimo. Perché gli ultimi? No. Allora, saranno gli ultimi, basta. Esatto. Allora non ti piace. Allora, no, io non, in realtà non voglio parlare di Shadow of the Empires, perché no, in realtà Beh, te l'ho detto, io, quello per me è stato un taglio, diciamo, da vecchia generazione a nuova generazione, ma in realtà non è tra le colonne sonore che mi è piaciuta di più, perché quello lo associo al film. Ma invece la colonna sonora di Shadow on the Vatican, eccola, no? Là, esatto. Io l'ho dribblata finora, ma se cioè, vogliamo citare Shadow of the Vatican. Che è il seguito famoso, certo. Allora, e lì ci stanno i bambini nel mezzo, preti, una cosa brutta. No, vabbè, dai, non allora, e lì altro che ombre. Allora, possiamo andare avanti per ore con tutti i sensi. No, allora, io invece, sempre restando sul binario di Guerre Stellari, invece volevo citare la colonna sonora di KOTOR, Knights of the Old Empire. Che pizzi dice, oh, no, ma quello, nice. Republic. No, non è originale, invece è originale, sì, tranne alcuni rimandi al tema della forza che sta nel tema di Bastila, però per il resto Biastima. Il tema è Biastima Shan, la famosa guerriera Jedi, e a parte qualche piccolo rimando appunto sul tema della forza di Williams, per il resto sono tutte quante composizioni originali di Jeremy Soule, che chissà, o Souli, potremmo pronunciarlo come cazzo ci pare. Sei francese soprattutto. O Sule. O Jeremy Sule. Vai, così. Sei giapponese, sti cazzi. E, beh, quelle sono sicuramente dei pezzi molto interessanti. A me è piaciuto soprattutto quello appunto di Biastima, Biastima Shan, il tema di Biastima. E Dantu in Grassland, che praticamente è il tema di Dantuin. E quello mi fa venire proprio, lo associo soprattutto quello a KOTOR, quindi è una cosa molto particolare. È bello questo. Bello, vedi? Per me è Tantuin e poi esplode tutto. Allora, poi c'è The Witcher. Dice quale The Witcher? Ma le colonne sono di tutti e due, mi sono piaciuti. Mi è un po' dispiaciuto che il tema principale di The Witcher, che era nel primo The Witcher, nel secondo sia stato un po' messo da parte. Pure il compositore è sempre Adam Skorupa, si pronuncerà così? Chi è che sa il polacco di voi? Ah, il polacco, dai, chi non sa il polacco? A parte no, non l'ho studiato, mi sono fermato al primo anno di polacco. A parte Sapowski, che è l'autore, non so nient'altro. Che non si pronuncia neanche così. A parte il vetro è pulito, non so niente. Poi si chiama Angie. Che voi ve lo ricordate, vedete com'è cambiato il mondo. Voi ricordate che 15 anni fa, 20 anni fa, erano i polacchi quelli che te lavavano i vetri, non erano i marocchini. No, i polacchi fanno tutt'altra cosa. I polacchi ci comprano la nazione, lascia la stare. Esatto. Quindi hanno finito di parlare di pulirci i vetri. Già. E di The Witcher. Era troppo, poco iniziare a pulirti il culo. Volevo dire, però non l'ho detto. Quindi no. Ecco. Di The Witcher magari potremmo citare il The Witcher Theme, che era quello con violini e chitarra elettrica, che era spettacolare, il primo The Witcher, oppure The Wild Hunt, che è nel secondo capitolo. Aspetto con impazienza il terzo, chissà che colonna sonora magari. Ci sono 12 ore di sesso, tra l'altro. 12 ore ancora, cioè. Su ben esattamente 13 ore di filmati, questa è la cosa sensazionale. E 12 gente che scopa praticamente, che è bellissimo. Dopo di questo io citerei Mafia, perché vi ho detto che c'è un gioco che per me ha segnato il passaggio tra una generazione e l'altra musicale. Mafia è stato un gioco molto cinematografico. No, molto Mafia bella la colonna sonora di Mafia, bravo. Sono stato molto colpito da Mafia. Sono particolarmente legato alla Mafia per tante cose. Come al 2, no? Sei rimasto colpito. C'è il 2? C'è stato? Colpito da quel colpo di proiettile dalla Mafia. Esatto. E la colonna sonora mi ha colpito perché era una colonna sonora originale, e non era l'unica volta che si utilizzava una colonna sonora originale, ma era anche una colonna sonora originale strumentale suonata da Czech Symphony Orchestra, che ricordiamo questo grande compositore del Novecento, esatto, che è venuto a mancare qualche giorno fa. Oh, che poi più che Morricone, scusate, voglio fare il rompiballe. Morticone! Più che Morricone è Nino Rota, no? Perché è quello del padrino. Nino a Rota, come si dice a Rota. Che era appunto orchestrata dall'orchestra sinfonica di Ceca. Non fate stanno lì, immagino come suonavano proprio. Ecco, facevano la fila per poter becere e battute, mi sono tenuto lontano. Io so che anche Bocelli cantava con loro, tra l'altro. Lui suonava veramente. Ma infatti, che vabbè, strumentale. Vabbè, ma valla a dire pure un po' a un certo Ray Charles, quindi. Infatti, Charles lui suonava, ok, niente. Lui suonava, lo bene. Dico, va bene, ok. Charles, se non sbaglio, recentemente è morto. Considerate che le colonne, questa magari non l'abbiamo citato, la colonna sonora di Mafia, una canzone della colonna sonora di Mafia l'ho sentita qualche anno fa in una pubblicità di una macchina. Vabbè, ma quale abbiamo messo di brano? Il main theme, okay. Main theme. In realtà c'è anche la canzone finale, che When the Gangsters Gone to Die, però quella è molto rappa negga e non c'è stava tanto bene, però era figa. Mettiamo anche un po' di Dragon Age, il primo. È il primo, sì. Il primo, dai, primo, mettiamoci, sì, anche lì il main theme, dai. Ionzur, esatto, che si pronuncia Ionzur. Che in realtà, voglio dire, c'era il punto che abbiamo saltato, che era, volevamo anche cercare di fare una sorta di ispezione tra quando praticamente gli autori di colonne sonore, televisive e cinematografiche hanno fatto incursioni nel mondo del videogioco e viceversa. E questo è uno dei casi, insomma, diciamo così. Sì. Ricordiamo una sua colonna sonora televisivo cinematografica. E quella del Signore degli Anelli, scusa. Beh, per esempio Battlestar Galactica. Forse. No, Battlestar Galactica è Bear McGreary. Sei sicuro? Assolutamente. Sono sicuro. Invece sì. Sì, è Bear McGreary. Ha ragione. Caliendo, tu non devi dare ragione. No, ma io non ho capito. Mettiamo allora, mettiamo sotto, per favore. No, ma io non ho capito qual è il nome di questo autore, però, scusate. È Ionzur. Ionzur, se cerchi. Ma non lo so se è cinematografico, siete sicurissimi di questa cosa? Io no. Nino Cuneo. Pizza di CDC, quindi. A me sembra che ha fatto qualcosa in televisione, Sì, si faceva la parte dello spazzino in Battlestar Galactica. Ionzur, sì. Vabbè. Comunque, poi dopo Ionzur, di cui ricordiamo, insomma, la triste di partita pure. Dai. C'è un'altra, uccidiamo per ultimo. Ah, Marco, sì, no, scusa, capo, Marco, hai ragione. Sì. Ha lavorato a grandissimi film come Power Ranger Movie Turbo e Power Rangers in 3D. Ecco, questi sono i film. Vuoi dire qualcosa qua? Io lo capo, Ionzur, Ino Megazord, Ionzur. Che tristezza infinita. Bruno Pizzo. Dopo è morto. Morto de stenti. Come si dice ormai, morto dei pizzi. Allora, poi ricordiamo un grande capolavoro del videogioco mondiale, che è Shadow, sempre le ombre quest'anno, sì. Però del colosso in questo caso, mi hai fatto sognare per un attimo, Marco, invece niente, ok, basta. Che sperava che in Africa, Shadow of the Empire, speravi. No, esatto. Di Koutani, no, Shadow of the Colossus, bisogna forse aspettare. Gli appoggiamo anche. Cristiano, no, speravi Shadow of the Comet. Dai, poi sono musiche tristissime ogni volta che andavi ad ammazzare un povero colosso. No, tristissime, alla fine c'era sempre la solita musica, esatto, quella tristissima, che ma durante il combattimento era bella, bomba, era bella ignorante, sì, era figa, sì, proprio durante bella il combattimento era epica, cori, sì, sì. Cori bulgari, no, di tutto, ma c'erano morì Gerontocchino dentro. E che se stai ammazzando e quanto mori? Di Koutani, di cui ricordiamo il main theme, che è la cosa che ti piace di più. Bella, ma in realtà sono tutte belle. Ma là pure Ico. Ico no. Ma ricordo alcuna sonora di Ico, sai? No, manco io, l'ho giocato, ma quindi, no. Ok, è finito? Significa che no. Ma sono 5, possiamo andare avanti. Possiamo. Perché io ho un intero CD pieno di canzoni. No, no, bastavano 5. Allora, dato che abbiamo detto Giuseppe resta per ultimo, perché vuole questo effetto. In realtà è penultimo, perché sorpresa. Pizzi non ha detto la sua. No, adesso infatti sto passando a me stesso. Perché, perché non si ricorda? Pizzi, non passati. Narraci. Allora, il primo gioco, potremmo mettere qualsiasi brano, ma metto praticamente il brano nel momento in cui entrano dentro uno specifico bar, perché praticamente questo gioco, che è Beyond Good and Evil, è un gioco che è stato forse una delle prime Beyond volte Good and Evil. Ah, senti, ma avete rotto il cazzo. Io dico, come la parla, ogni volta tu, che ogni se volta tu scrivi Beyond God, ogni volta che Simone pronuncia il nome di questo gioco, ci sarà qualcuno un bambino. Un giorno Dio muore. Sì, e Michel Ancel posticipa il lancio del seguito di 5 anni. Ah, ecco, adesso capisco. Tra l'altro, sì, vabbè, sarebbe da parlarne, ma comunque, vabbè. Beyond Good and Evil, hai ragione. Perché questo gioco è stato uno dei primi giochi, in realtà non è proprio così, però che mi impressionò particolarmente perché aveva proprio una colonna sonora estremamente specifica a seconda delle zone, tra l'altro anche cantata, che era una cosa, insomma, che allora era forse una cosa più unica che rara, insomma, un'eccezione particolare. Io giocai su PC, penso che era epoca, generazionalmente era tipo epoca PS2, se non sbaglio, sì, qualcosa del genere, e c'era questa canzone Propaganda lì, che praticamente quando propaganda, loro entrano, propaganda, esatto, bravo, quando loro entrano nel bar, sì, dei ribelli, insomma, che era una cosa che oserei dire, perché comunque lo vedi che era tipo sempre un setting anche un po' giamaicano, no, quindi tribale come musica, no, o anche alla come si chiama, sì, era ricco di contaminazioni, tipo la musica di Bale, sì, c'era un po' di tutto veramente dentro, in effetti, ed era particolare per quello, perché poi alla fine erano canzoncine che in un modo o l'altro ti rimanevano impresse nel cranio. Il secondo gioco è il gioco che, sì, noi sappiamo che tanti colonne sonore di tanti videogiochi sono state riproposte nella storia in tantissimi remix, in tantissime riproposizioni, ricontaminazioni, rielaborazioni, roba del genere, però probabilmente c'è un brano nella storia dei videogiochi che chiunque, secondo me, conosce, anche gente che non ha giocato tanto ai videogiochi e che abbiamo risentito, insomma, veramente risuonare anche live a tantissimi gruppi, in tantissime salse, dal remix all'heavy metal, che è il brano principale, quindi la canzone, la musica d'apertura di The Secret of Monkey Island, quindi esatto, il primo gioco, che è proprio la musica, penso, per eccellenza, perché Monkey Island è stato, ma tutta quanta la trilogia, ma in particolare il primo e il secondo, sono stati due giochi che hanno avuto una colonna sonora veramente potente e veramente caratterizzante, tant'è che la funzione di una colonna sonora, anche a livello cinematografico, soprattutto il tema, è quello di diventare il logo sonoro del prodotto, quindi del film, e in questo caso del videogioco. E in pochi casi, secondo me, in senso assoluto, ecco, forse Metal Gear e qualche altro, hanno veramente avuto un tema principale che è la rappresentazione proprio sonora del gioco stesso, che la riconduzione è praticamente automatica. Non so se per voi è così, però insomma, per me è sicuramente questa, insomma, ecco, magari si diceva fra noi, fra ogni onda, forse era una citazione scontata, probabilmente sì, però insomma era un atto dovuto, anche perché so che per chi non voleva essere scontato non l'avrebbe citato, allora sarebbe stato un peccato il fatto che poi alla fine facevi un episodio e non citavi questo brano. E poi anche qui forse, insomma, è un po' banale, perché se Marco ha messo Dragon Age, io non posso non mettere le sonorità, più che il brano in sé, le sonorità del brano d'apertura di Mass Effect, non solo per una volta esatto, perché c'era questa Mass Effect, secondo me, anche dal punto di vista delle sonorità, c'aveva questo senso di mistero che lo spazio mi ha sempre dato. Sì, anche comunque musiche sintetizzate, diciamo, elettroniche, che danno la sensazione anche proprio di futuro. No? Esatto, sì, però futuro, incognita, sì, mistero, spazio, sai, tutte quelle cose, insomma, che comunque ovviamente t'aspetti. Sempre rimanendo invece in... poi questo ovviamente è un gusto mio personale, però ecco, lo riassocio molto per esempio a quello che dicevamo prima su The Dig, cioè The Dig per me l'intera colonna sonora, anche se magari poteva rischiare, insomma, di essere un po' ripetitiva, però aveva proprio quello scopo lì, quel senso di mistero, dell'esplorazione, del pericolo, dell'incognita, insomma, cose che comunque erano dietro l'angolo, infatti anche sulla narrazione di quel gioco. E un altro tema principale che Ne abbiamo visti e ne abbiamo sentite tante di formule, di scenari post-apocalittici, quindi abbiamo visto zombie, abbiamo visto virus, abbiamo visto qualsiasi tipo di cose, e colonne sonore quasi sempre molto adeguate, ma la colonna sonora di The Last of Us è veramente particolare, perché ha proprio nella ricerca proprio del suono, delle sonorità, quindi degli strumenti, della malinconia, della devastazione, e che però non è una devastazione a largo campo, cioè nel senso una musica che ti fa pensare veramente alla morte totale, è più una cosa intimista, cioè nel senso della precarietà del proprio essere all'interno di un mondo che praticamente ti può uccidere ogni angolo che passi, insomma. E poi vabbè, ci sono anche delle caratterizzazioni della colonna sonora, ovviamente a seconda delle varie drammaticità della storia che va a raccontare, però insomma il tema principale è più che sufficiente per comprendere proprio l'elaborazione, il lavoro che è stato fatto dal musicista in questa colonna sonora. Non so poi se voi siete più o meno d'accordo, però insomma penso insomma che sia la cosa più devastante e malinconica, insomma, che mi sia capitato di sentire perlomeno nell'ultima generazione. E un altro tema principale, ma non è solo una questione, perché ovviamente il tema principale è il primo impatto che tu c'hai con un gioco, di questo ultimo mio gioco è veramente un impatto fondamentale, perché Marco lo sa benissimo, non soltanto ci veniva in mente ogni 2x3 quando eravamo in trip con questo gioco, ma perché quando facevamo anche viaggi in macchina Marco ficcava il CD e ce la risentiamo, che è il tema principale di Fallout 3, che è la cosa più bella che ascoltavo in quel periodo lì, ovviamente nel periodo in cui io stavo veramente in trip con questo gioco, dove veramente raccoglievamo pure i tappi per terra, perché l'immedesimazione che ci ha dato Fallout 3 probabilmente è capitato sì in tantissimi altri giochi, ma non con la stessa intensità, perlomeno per me. Non senza uso di droghe, soprattutto. Non senza uso, esatto, di steampunk, no, come si chiamano? I cosi, le punto, Radaway. Di no. Radaway. Gli steampunk erano su cosa? Chiama? No. Su StarCraft, mi pare. Ma steampunk ci stavano pure avuto, su cosa? Ce lo sono su Fallout, sì. Sì. E, perché c'aveva sta colonna sonora, questo inizio molto pomposo ma greve, molto grave, cioè nel senso proprio esatto, pesante, diciamo così, questa cosa esploso tutto, capito? Cioè, so cassi tu a qui come giri l'angolo pure quando fanno un bucio di culo che non finisce mai. Come un sicchio. E insomma, è quella alla quale sono veramente più legato. Poi anche questo, sì, insomma, questo gioco aveva delle varietà, delle particolarità, insomma, però ecco il tema principale. Che poi ovviamente le scelte che ho fatto io sono legate anche a questioni affettive, cioè nel senso chiaramente, ma penso che sia difficile altrimenti riuscire a fare una scelta che sia puramente oggettiva. Insomma, questi sono i miei 5 titoli che mi è sembrato giusto omaggiare. A questo punto chiudiamo la trasmissione, giusto? No, veramente ci starei. No. mancherebbe qualcuno. Ma era una battuta, infatti. Vai Giuseppe. Ok, allora i miei 5 è stato difficile sceglierli, perché ovviamente non sono gli unici 5 a cui sto davvero ho a cuore, però ho voluto fare una selezione non solo per piattaforma, se guardate, ma anche per genere, per evitare insomma di parlare sempre solo di musica, di giochi di ruolo, quindi ho diversificato proprio per tutto, se guardate, perché non c'è diciamo un accoppiamento genere piattaforma che si va ripetendo. Quindi cominciamo con uno che è proprio preso dall'originale sull'arcade, che è Magical Sound Shower da Outrun, che è una delle musiche che tu potevi selezionare prima di avviare la gara nel gioco. Questa qua, insomma, se non sbaglio, è stato il primo gioco dove potevi scegliere la musica dell'autoradio, vero? Può essere uno dei primissimi, perché sì, mi pare di sì. a quel livello, sì, lì, cioè che dava, sì, quell'importanza, sì, mi sento io, sì, soprattutto per, no, le, e poi diciamo a me piaceva molto Magical Sound Shower, perché se la sentite è una musica molto rilassata, no, che ti dà proprio la bellezza e la sensazione di spensieratezza, di essere, diciamo, di poter comunque sfrecciare, sì, su una bellissima macchinona, una Ferrari con accanto la biondona, però comunque rilassato, non che devi tipo le altre musiche, cioè, comunque tutti gli altri giochi di quel tempo, dove essendo delle gare contro il tempo, no, dei time trial, dovevi comunque avere l'impellenza di arrivare al checkpoint. Qua diciamo era proprio l'ideale per chi che voleva guidare in maniera spensierata, rilassata. Ecco, insomma, ecco questo perché mi è piaciuto. Poi comunque questa musicalità davvero stupenda, questa qua ha vinto sopra la scelta che avrebbe avuto, diciamo, l'altro contendente, che qua non ho scritto, che era il mitico tema sempre arcade di Daytona USA, quello che era Daytona, Daytona! Sì. Esatto. Daytona. Comunque, no, cazzo, poi adesso sono in testa. Adesso scimmia tutta la notte. La seconda invece viene da un puzzle game, invece, che è la mitica. Sempre questo qua pure ti permetteva, se vi ricordate all'inizio, di scegliere ben tre musichette di sottofondo. E ho scelto la A, che è la più famosa, che è del Tetris, che è quella pam pam pam pam pam pam pam, no, che diciamo proprio è bella, perché sì, perché sì, è una musica che ti entra in testa, è la musica che chiunque la canti, anche se non ci ha mai giocato, sa che viene da Tetris. E soprattutto è una musica che, se noti, ha proprio una forte connotazione russa, diciamo, dei paesi dell'est, no? Beh, no, aspetta, facciamo una precisazione, sì, perché è giusto quello che dici. Allora, sì, la musica già esisteva, cioè, sì, nel senso, sì, sì, è, sì, comunque una ballata popolare russa, sì, che è stata riportata su Tetris, mm-hmm, che è stata giocata da miliardi di persone, sì, e che se oggi tu pensi musica, videogiochi, esatto, pensi a Tetris, esatto. Assolutamente sì, sono d'accordo. Mm-hmm. Poi al terzo posto, tanto per fare sempre contento quel mezzo francese che conosciamo noi, è il tema, in realtà sono sempre presi dallo stesso gioco, che è Metal Gear Solid 3 Snake Eater, ed è sia il tema di apertura che fa, diciamo, il verso ai, riuscendoci però peraltro benissimo, ai film, alle canzoni di apertura dei film di James Bond, no? Quello proprio Snake Eater, che è veramente bellissimo, proprio perché sembra proprio musica anni 80. E poi quello, diciamo, il tema rimaneggiato però per Snake Eater, che si sente verso la fine anche del tema principale di Metal Gear Solid, che è molto più triste, perché vedi, insomma, dopo che Big Boss è tornato dalla sua missione, ce l'ha fatta, però diciamo vedi che è un uomo profondamente cambiato, che non crede più nel suo paese e tutt'altro, quindi comunque è epico, ma anche drammatico allo stesso tempo, che poi il tema principale di, sì, Metal Gear è veramente, sì, bello, sì. E se vi ricordate, non so se ci avete fatto caso o se vi è capitato, in uno dei finali di GTA 5, sì, c'è la citazione sonora, sì, non so se l'avete sentito, cioè, sì, se vi è capitato, no, a voi. No. Scusate, in uno dei finali. Quale intendete esattamente, quello di quello che dal secondo in poi si sente? Bravo, no, esatto, quello da... cioè, in realtà c'era anche nel primo, però comunque era masterizzato in un'altra maniera, arrangiato in un'altra maniera. È quello che, diciamo, comincia in maniera dinamica e poi verso la fine fa na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na che, beh, vabbè, ha fatto altre cose, ha fatto le cronache di Narnia al cinema, per esempio, e altre cose belle, è un bravo compositore, comunque belle robe ha fatto, cioè, tu lo sai, anche, le cronache di Narnia è un giornale che distribuiscono qui nel Lazio, sì, la cronaca di Narnia. Beh, ha fatto anche X Wolverine, lo spin-off Prince of Persia, sì, il film, Madonna, però. Ha fatto un bello, bel film, eh? Il tema principale di Dune, per ritornare a Dune, sì, ad esempio, e anche un sacco di altra roba che adesso non mi viene in mente, però ce l'ha fatta. Poi, quarto, quindi come penultimo, ovviamente, siccome ho detto bastardo prima a Stefano, invece io dico il tema principale di Chrono Trigger, a parte perché Chrono Trigger è uno dei migliori, secondo me, JRPG di tutti i tempi. Oltretutto, se lo state ascoltando adesso, è passato da qualche giorno il ventennale del gioco. E soprattutto il tema principale, che, se vi ricordate, è quello na, na, na, na, Perché praticamente posso dire una cosa? Sì. Scusa sì. Giuseppe, poi dai. Cioè della Square Enix, cioè Square allora, sì, di tutti i remake del cazzo che ha fatto, cioè vuoi dire, cioè questo è un gioco che meriterebbe, no, ma l'ha fatto tra virgolette in realtà l'ha riproposto per DS pure su mobile, però in realtà non è, diciamo, un remake per un come lo intende Simone vorrebbe, diciamo, il remake da zero poligonale e tutto, no io lo vorrei sempre 2D, però questa... 2D HD. Questo tema mi è piaciuto, a parte perché poi nei vari riarrangiamenti ne hanno fatto pure uno fatto da non mi ricordo quale orchestra filarmonica, però di quale paese. Però la cosa bella è che questo tema ti dà la sensazione di viaggiare nel tempo, proprio come il tema che, diciamo, tracciando un parallelo con quello di Ritorno al Futuro, quello di è proprio la stessa epicità, secondo me. E infine chiudiamo con Pressing Pursuit Cross Examination, in particolare dal terzo gioco dal terzo gioco di Phoenix Wright, Ace Attorney Trials and Tribulation, ovviamente è la versione per Nintendo DS, non proprio quella del Game Boy Advance. Secondo me lo conosce Cristiano sto gioco. Phoenix Wright, quello Objection. Comunque questo è uno dei vari temi, perché diciamo potete anche prendere, che so, il corrispettivo dal primo gioco dai Saturni, e sono sempre di quelli che cambiano quando tu ormai stai per vincere, stai incalzando la persona, insomma, che è il vero colpevole del caso, no? E quindi lo vedi che la musica proprio accelera, subisce questa accelerazione, mette proprio appunto in calza, perché proprio ti vuole dare la sensazione di tu che stai pressando questa persona che sta proprio per cedere, per confessare il suo delitto. E questo qua mi è sempre piaciuto. Vuoi anche perché comunque tutta la colonna sonora di Ace Attorney c'ha motivi belli, c'ha pure, diciamo, all'inizio quando fai l'investigazione molto più lenta, proprio per rilassata, sia per darti la possibilità di concentrarti su quello, sulle deposizioni dei vari imputati, sia perché comunque è più intelligente, o anche tipo la musica, se vi ricordate, alla fine di ogni tema, dopo che lui vince il caso, che, diciamo, è proprio la classica musica da happy ending, no? Ma lì infatti è tematica anche quella, molto bella della trilogia, anche in realtà quella di Apollo Justice era bella. Pensa che su questa qua ci hanno rilasciato Capcom, oltre, diciamo, appunto alle colonne sono prese dai vari giochi, ci hanno fatto dei riarrangiamenti, da una parte in un CD in versione jazz e in un'altra in versione orchestrata. Fico, bello. No, anche lì era tematica, perché comunque tu hai detto Objection, quando tu dicevi Objection partiva quella musica lì, quando dici perdevi, lo vedi che proprio che ha una spinta che ti incalza, no? Sì. Bella. Ok, queste sono le mie 5. Perfetto. Allora, niente, in realtà questa puntata voleva essere così, una sorta di panoramica e di omaggio anche al grande passaggio, all'importanza delle colonne sonore nel mondo dei videogiochi, perché penso, poi non so, smentitemi, credo che la musica nei videogiochi sia l'evoluzione artistica più importante negli ultimi 20 anni, 25, anche 30 anni volendo. Perché sì, i videogiochi sono cresciuti tecnicamente, sono cresciuti anche artisticamente in tanti aspetti, ma probabilmente il solco più grande, proprio dal punto di vista dello specifico valore artistico, probabilmente sta proprio nella musica. Non so se Marco è d'accordo. Assolutamente. Sei d'accordo? Tu Giuseppe sei d'accordo? Sì, condivido e sottoscrivo appieno. È proprio, diciamo, tra tutte le varie possibili componenti, quindi grafico, artistico, di scrittura, eccetera, quello che effettivamente ha raggiunto più velocemente la piena maturità, ed è andata proprio andando oltre, proprio a mutare prima anche, diciamo, dei giochi narrativi, no? il gameplay. Esatto. Cristiano, tu sei d'accordo? Sì, secondo me è una cosa banale, si dice che la musica riesce comunque a farti sentire anche il sapore, gli odori di qualcosa, no? Quindi se riesce veramente a essere a riuscire ad allinearsi, o comunque a ispirare, tu ti rivedi il gioco, ti rivedi le più che il gioco, ti rivedi le sensazioni molto meglio di quanto può fare un'immagine, per esempio. Infatti secondo me è un grande film, Magari se prendiamo delle film di fantascienza o d'avventura che magari ci hanno emozionato tantissimo, non so Stefano se è d'accordo, per esempio se tu gli levi a Indiana Jones o gli levi a Blade Runner la colonna sonora, probabilmente gli levi metà del film. Beh, no? Sì, direi che Blade Runner, tipo roba di Vangelis, quella è già una cosa a sé stante praticamente, e unita al film ti raddoppia il piacere, diciamo, della visione per certe cose. Quindi, infatti le grandi opere nascono da grandi ispirazioni, poi, perché cioè, devi essere ispirato lo sceneggiatore, deve essere ispirato il regista, deve essere ispirato il musicista, diciamo che bisogna avere un sacco di fortuna. immagina Highlander, okay. Highlander però con una sonora dei Queen, aspetta, Highlander con una sonora dei Queen, che l'hanno fece fatta apposta. L'hanno fatta apposta, assolutamente apposta, e l'hanno fatto dopo aver visto la prima del film senza musica. Sono usciti saltati, cioè. Sì. E hanno fatto Kind of Magic. Hanno sentito il pezzo, sì, una specie di Kind of Magic, nasce proprio dalla battuta. Grande film. Colonna sonora, grande film, grande colonna quando sonora. Quando dice una specie di magia, no? Quando dice. Esatto. Sì. E lui, e loro praticamente hanno preso questo pezzo e ci hanno fatto una canzone. Kind of Magic. E comunque il primo Highlander rimane in assoluto il più bello del mondo. E poi Who Wants to Live Forever, ovviamente. Così, pronto per essere. Sì, okay. È ancora più bella, non Freddie Mercury sicuramente. Va bene ragazzi, è stato un piacere, siamo andati lunghissimi con questa puntata, sì. A differenza di siete stati bravi invece con la puntata su Itain, quindi a questo dovremmo punto tagliare tutto il pezzo di Caliendo. Potremmo, esatto. No, se tagliamo la parte in cui abbiamo introdotto il mio main team, probabilmente guadagniamo qualcosina. Il tuo main team non è para pa pa pa para. Perché sarebbe che è caliendo. Io che ti invito come ospite di prestigio, veramente basta, non ti invito. Era bellissimo. Va bene. Viva Necra. Allora, volevo dire. Salutiamo Cristiano Caliendo da Calavera Caffè e anche dal suo blog New Big Corner. Qualcosa del genere. New blog, New Kids on the Block. Ti sei perso una S per strada, ma vabbè. Ti si vuol bene, ti si vuol bene lo stesso. New Big Corner. Vabbè, dai, dillo tu, invece di fare a puntualizzare come rompi coglioni. New Big Corner e Calavera Caffè. Ah, come ho detto bene, adesso. Oh, bellissimo. E a questo punto ok. Salutiamo Giuseppe Saso, ovviamente l'occhio del Beholder, quindi occhiodelbeholder.it, ricordatevi senza L perché davanti, perché se no non lo trovate. Poi Giuseppe, insomma, c'ha Tumblr, c'ha tante altre soluzioni, insomma, Giuseppe, vai. Da, vabbè, da tutte le varie i vari podcast di PN e non solo PN Multimania e poi comunque oltre all'occhio del Beholder, vabbè, guardate il mio blog di Tumblr, che se non lo trovate di recente è perché è in fase di restyling, ma vi dirò altre cose con le prossime puntate. Attenzione, siamo curiosi. E invece, ovviamente, il coproduttore di questa trasmissione, anche se ultimamente si è dato alla macchia, perché il copro, perché addirittura copro deve anche lavorare. Infatti si è dato alla macchia, copro macchia, no? Sì, esatto. Copre lui, copre la copro, macchia. Copro che, macchie. Che è Stefano Biggio con la sua trasmissione Retrocast, che si trovate su retrocast.it, non so su cos'altro, su Twitch, su Facebook, sì, anche su Twitch in realtà. Cercando Retrocast Live, gli darei dirò proprio il titolo di copro produttore dentro la storia ancestrale pure, no? Soprattutto, esatto, online mi trovate come Stefano Biggio dentro la storia ancestrale. Se riuscite a trovarmi vuol dire che probabilmente siete anche in casa mia, quindi questo potrebbe essere un problema. Comunque è da poco anche aperto un'attività di allevatore di conigli. Esatto, con poca fortuna, visto che sono due maschi. Stefano, quindi io ti do un consiglio, infatti, quando cominci con gli allevamenti, prendi le femmine. E adesso non ero preparato, no? non sa. Va bene, riprendere più femmine che maschi. Vi ringrazio a tutti quanti. Ah. perfetto. Allora, andiamo molto veloci perché, insomma, per parlare di queste fantastiche cose di cui, insomma, abbiamo parlato, questa musica, le colonne sonore, del, ascoltare anche un pochino, insomma, che fa sempre bene, siamo andati un po' lunghi, quindi ci dobbiamo sbrigare perché abbiamo... Quindi, ciao, arrivederci, vediamo no, abbiamo veloci. Abbiamo una rubrica che è un po' che manca. Ed è interessante perché ci fa scoprire un aspetto della Svizzera che noi non conoscevamo. Che non è tutta quanta formaggi e fondenti. No, ma ci spiega una questione molto importante, Biggio, e quindi ascoltiamocelo. Sono 50 sfumature e vi racconterò di una cosa che mi è successa molto di recente. Durante la compilazione, o meglio la ricompilazione del mio curriculum vitae fatto appositamente per gli svizzeri, diciamo, quindi tutto in tedesco, con tutta una serie di rotture di palle logistiche, quindi metti sopra questo, sotto quell'altro, questo va in questa categoria, questo va nell'altro, specifica qui, questo non in grassetto, questo non in corsivo. Insomma, una serie di rotture di cazzi varie ed eventuali. Detto ciò, alla voce hobby io ho scritto che giocavo ai videogiochi e che mi occupavo di alcuni podcast di videogiochi e di qualcosa anche su YouTube. Questo mi è stato corretto, nel senso che mi è stato detto che non era il caso di far vedere che giocavo ai videogiochi nel mio tempo libero. La palestra, il fitness, qualunque altra attività era più apprezzata rispetto a questo. O meglio, ho inserito anche delle attività sportive che faccio in maniera abbastanza discostante, però che faccio? Mi è stato consigliato quindi di togliere i videogiochi, inserire esclusivamente il fatto che gestisco, collaboro con dei podcast che si occupano di alcune cose senza specificare il fatto che siano videogiochi. Io ho detto all'insegnante che i videogiochi mi hanno permesso in passato di trovare lavoro in certi casi, che grazie al fatto che videogioco che ho conosciuto determinate persone che poi si sono rivelate utili, diciamo, da un punto di vista utilitaristico, quindi persone che comunque mi sono servite per proseguire nella mia carriera lavorativa. E non solo, anche dal punto di vista umano, mi hanno sicuramente arricchito. Tosta che lei ha scosso la testa e ha continuato a dire: no, guarda, è meglio che lo togli. E così come ho fatto togliere la box e altri sport estremi, anche se la box sinceramente non mi sembra molto estremo, a un altro mio collega di corso di tedesco. Io mi chiedo, nella box lo capisco, perché nella box, nel paracadutismo, dici, posso farmi del male, magari il mio datore di lavoro non vuole che io corra rischi di essere malato in continuazione, di avere il naso rotto, di spaccarmi qualche arto, ma giocare ai videogiochi tendenzialmente non ti danneggia, a meno che tu non lo faccia in maniera stupida, quindi che giochi 48 ore consecutive e poi muori perché non hai né mangiato né bevuto, eccetera eccetera, insomma le solite cose che sentono dire in giro. Tosta che, a quanto pare, viene ancora visto anche qui in Svizzera, che subisce l'influenza della Germania, quindi un paese dove il videogioco ha una buona cultura. Nonostante questo, ancora viene vista come una cosa frivola, come una stupidaggine, una perdita di tempo, diciamo, come si dice, nel suo tempo libero lui perde il suo tempo, lo dedica a inezie invece di fare cose più costruttive. Questo posso capirlo da un'ottica o da un punto di vista calvinista come quello degli svizzeri, però da un punto di vista europeo, diciamo mondiale, del 2015, degli anni 2000 in cui siamo in generale, mi sembra ancora che siamo ai livelli della gente che accusa GTA di aver scatenato stragi e quant'altro. Quindi niente, un piccolo sfogo perché, insomma, butto acqua al nostro mulino in questo caso, considerando che sicuramente se state sentendo questo segmento, poi i videogiochi vi interessano in qualche maniera, e se non vi interessano, insomma, sappiate che è ancora così in tante parti del mondo, non solo in Italia, non preoccupatevi. Ciao ciao. Insomma, hai capito, lo sapevi tu questa cosa? Sì, che... ma io lo sapevo, io sapevo anche che in un curriculum a Stefano gli avevano detto di rimuovere il nome e il cognome. Esatto. Quindi sì, sono a volte quando ci sono le cose inopportune cercano di farle togliere. Non lo mettere proprio in italiano il cognome e il cognome. Tu sei Stefano Piccio? Esatto. Stefan Pigeon, gli hanno detto. Che... esatto. E di non dire che gioca ai videogiochi. Soprattutto perché è lui. E che fa pugilato. No, l'amico suo fa pugilato. L'amico suo fa pugilato. Lui fa che fa di sport? Fa l'alzatore di cinghiale. Lui dice che fa qualche sport ogni tanto, però così, di tanto in tanto. Sì, ma quelli giocati col computer non valgono, no, diciamolo. Quindi tipo, visto oggi è uscita la notizia che Daley Thompson non si sente responsabile per i joystick distrutti. Che era quello che ha fatto? Daley Thompson Decathlon. Non conosci Decathlon, però l'ho giocato. Decathlon. Però non Decathlon ce ne sono stati tanti. Decathlon. No, io Decathlon dell'Activision. E quella è Track and Field? No. Eh sì? No. E quante non ne sai? Dopo no. Ti faccio. Io ho anche Track and Field su YouTube. Diverso. Vabbè. Comunque. Può anche essere. Andiamo alla parte finale. Cara filosofia dietro ludica. No. Carissima videologia dietro ludica, no, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Vabbè, va, è uguale. Poi c'è sempre sto vecchio che ci scrive, sta lì la macchina a scrivere. Vecchio, credo che... Senti, c'è posta stavolta. Addirittura. Pensa, io non me ne sono neanche curato. No, in effetti è un po' che non ce la inculiamo molto la posta. In realtà non è. Riceviamo tanti messaggi, però anche sparpagliati. Addirittura. Fotti di fa'culo. Però insomma, noi cerchiamo di metterli insieme per anche, un insulto più generico. Anche insulto, anche perché poi questa è la puntata che viene successivamente alla puntata. Che c'è stato lo scherzo, uno scherzone simpatico, no? Quindi quale scherzo? La cosa della camporella, che la gente non l'hanno presa proprio bene. Cosa? Gli appassionati. Okay, scusa, non capisco. Che è successo? C'è stata la puntata, la 13. Che l'ho sentita, bella puntata. Cioè, alcuni l'hanno anche apprezzata. Sì, allora, io penso sia una delle migliori di tutta quanta la. E invece ho capito che gli appassionati dei videogiochi non ce l'hanno tutto questo senso dell'umorismo. Ma quale senso dell'umorismo? Scusa, cioè, non capisco, è una cosa tanto seria. Va bene, allora andiamo a concludere. Dal sito di Dietrologia Videoludica. Dal sito c'è un commento sull'articolo, anzi sul. Sì, sì, okay, un articolo. Chi mandava un articolo? In realtà era su una puntata del podcast di Mauro Rosati. Mauro Rosati. Ciao grandissimi, volevo chiedervi una cosa: ma i video non li fate più su YouTube? No, li facciamo altrove. Grazie in anticipo per la risposta e un salutone a te, Simone, e a tutti quanti voi. Poi sai che i nostri video adesso sono su YouPorn, cioè, noi facciamo i POV adesso, esatto, proprio con il Google la puntata era Google la 307, non mi fai paura, non mi fai paura, paura, perché, esatto. Insomma, ma c'è, cioè, addirittura sulla 308, la Spaghetti Games, che ci scrive uno sconosciuto, tale Alex. No, però è interessante quello che dice. Ho appena terminato di ascoltare questa puntata, che reputo una delle migliori di sempre di Dietrologia Videoludica. Questo perché ancora non l'ho ascoltato in camporella. No, esatto, infatti. Mi è piaciuto come avete affrontato ognuno con il suo stile e i propri sentimenti questo grande ricettacolo di argomenti, aventi tutto lo stesso filo conduttore. Filo. Il nostro bel paese. Viene sempre in mente il formaggio. Se posso essere sincero, devo ammettere che secondo la mia modesta opinione, la parte relativa allo sviluppo attuale e alle prospettive future della programmazione del rilascio dei giochi in Italia mancavano di un punto di vista più imprenditoriale. E mi spiego meglio: purtroppo l'industria del videogioco, che ci piaccia o no, è cambiata ed è radicalmente diversa da quella che ha vissuto il mondo ludico digitale ai tempi del Commodore 64 d'amico, anche grazie a Dio. Abbiamo detto anche noi. Oggi il grosso dell'industria del videogioco, dal punto di vista del fatturato, è ancora costruito dalla massa di giocatori hardcore. Senti che bello, hardcore. Però il volume di prodotti creati, distribuiti è costituito da giochi non impegnativa e casual. Ed è forse proprio in quest'area che ci si dovrebbe concentrare, perché il gioco casuale apre la porta agli sviluppatori piccoli, meno raffinati e più agili, che possono rispondere in maniera molto più velocemente alle richieste del mercato, sviluppare un gioco in poche settimane invece che in diversi mesi. Vabbè, un gioco in poche settimane magari è anche una merda, però non sempre. ben venga una scuola che racconti ai progettisti di giochi e di livelli che non esiste soltanto Call of Duty, FIFA o GTA, ma che si possono fare molto più soldi in maniera molto più dinamica con Candy Crush, Saga o anche con le rapine. Anche perché il mercato del gioco nudo e crudo è praticamente resistente in Italia, certo, ma la gamification e le applicazioni prodoludiche, attenzione, prodoludiche, nuova parola, quando protoludiche, per me è anche prodoludiche, io non lo sai comunque, non so cosa dire. Esatto. Sviluppate per far brand awareness, sono in continua esplosione. Non ho capito che cosa ho letto, ma è uguale. E come ripeto sempre, se programmare un gioco anche basico, sai sicuramente sviluppare applicazioni serie, serie e impegnative. Non è vero, invece, è contrario. Detto questo, grandissima puntata a 300, così per piacere. Beh, Alex, ti ringraziamo del commento e la prossima puntata che partecipi poi ce lo spieghi quello che hai scritto. Perché... Sì, siamo traduci in italiano. No, ma soprattutto se lo condensi anche un po'. Sì, sai che mi sono perso, poi non ci sto stasera. Da Facebook. Addirittura. Non ci sto, da Facebook. Alla domanda, quali sono le colonne sonore videoludiche che avete amato di più? Visto che era in procinto questa esatto. puntata di cui... E Andrea De Girardis, il Ken Theme da Street Fighter 2 e Magical Sound Shower da Outrun. Edoardo Cecere, tutta la produzione di Uematsu, che famoso, tu sai, Uematsu. Michele Schuren invece dice Zelda, Mario, Omicron, il primo su River e Quake, quindi c'è va bene, a questo punto grazie a tutti quanti come al solito della vostra partecipazione. Ci sono anche dei messaggi inerenti agli articoli, insomma quelli magari li tralasciamo, suggeriamo poi a chi ha scritto gli articoli di andare a rispondere agli utenti. Ad esempio c'è una questione proprio quello sul per Peppe Saso, addirittura sul famoso articolo sulla religione ai videogiochi, che insomma addirittura un bel bello vecchiotto, insomma, ma poi magari torneremo a parlarne. Per questo episodio è tutto, ci sentiamo al prossimo episodio di Dietrologia Videoludica, www.dietrologiavideoludica.it. ricordatevi iTunes, abbonatevi, tanto è gratis, soprattutto 5 stelle e qualche recensione, perché è veramente tanto, ma veramente tanto che non lo fate, nonostante che siamo messi decentemente in classifica. Ciao a tutti. Ciao. Io non dico due. When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before, with hospital-grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the DC area moving. Find out more at WMATA.com/doingourpart. I have PenFed, that's a fact. I have PenFed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.